Dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. No, adesso sì, no, dovremmo fare un attacco decente, cioè in questo sì, momento iniziamo. Qua, però cioè, ci sono veramente, stanno succedendo di tutto qui, non soltanto in studio ma anche direttamente nei campi, quindi non sappiamo bene se presentare prima noi o presentare invece il campionato. No, presentiamo il campionato, direi che è la cosa sì, migliore in questo capire, caso. Il calcio si gioca coi piedi o con le mani? Che schifo. Che no, schifo. Ma, fai, fai, che fai un'altra prova a microfono? Prova. Mi viene bene sa. Ecco, guardate, questo sono cose che succedono ovviamente. Ma sai com'è Sergio? In mente quando tu andavi alle medie, ecco. No? Che c'era quella ragazzina, quella con i riccioli biondi che ti piaceva tanto, che tu ci hai provato per settimane, poi finalmente quella sera proprio tutto. Quella sera ti ha detto domani andiamo a mangiare la focaccina, ecco, all'intervallo assieme, e quella sera ti è venuto il brufolo sul naso. Esatto. Ecco, è uguale. Quindi è una cosa abbastanza triste. Nel frattempo vi diciamo alcuni risultati anche con la collaborazione di Luca Cancellara. Era Luca Gattuso, lo diciamo, perché questa voce veramente vomiteva. Gol! In questo momento ha segnato. Scusa, non dovrei esultare. No, aspetta, con calma. Diciamo che purtroppo c'è questa notizia abbastanza triste che sta attanagliando il paese, cioè Sansone del Parma in questo momento, proprio in diretta, ha pareggiato con la Juventus, quindi è 1-1. Sono depresso adesso. Vai avanti tu, guarda, adesso così impari. Vai, perché non tu. È sempre Sampdoria, diciamolo, per la Juve, si riesce anche a pareggiare sapevo. In questo campionato. Tra l'altro io stavo dicendo, guarda, che tra l'altro la Juventus non ce la farà. Ricordiamo intanto che comunque il gol era di Pirlo, no? Quello della Juventus. Sì, Pirlo con l'aiuto di un po' di gente in area. Cioè nel senso rimbalzino, queste sì, cose. Sì, nel senso lui ha tirato una punizione dal limite a giro, poi è stata deviata da un difensore, è entrata in rete. Però 1-1. Io vorrei allora a questo punto lasciare soltanto a te i risultati del primo tempo, e anzi fino a questo punto che sono mai, cos'è, siamo al 32esimo, 33esimo del secondo tempo. Vabbè, vai con i risultati. Sei una persona cattiva, vabbè. Allora, Cagliari Genoa 1-1, ha segnato Pisano. Scusa, non ho capito cosa hai detto. Neanche io, quello per me. Cagliari Genoa 1-1, ha segnato Pisano, ma bravo. Pisano del Genoa, non del Cagliari, certo. E poi Sau del Genoa. Catania-Roma 1-0, il Papu Gomez 1-0 per il Catania. Saranno felici i tifosi della Lazio, non solo perché la Roma perde, ma anche perché vince la Lazio 1-0 con Floccari. E poi Napoli-Palermo 3-0, Maggio, Inler e Insigne, proprio poco fa, ping, il nanetto del Napoli ha segnato. Senti, già è abbastanza così vomitevole la tua voce, se dopo ci rimette tutti anche il commento. Dai i risultati, basta e vai via. Parma-Juventus 1-1, Pirlo e proprio pochi istanti fa pareggiato il Parma con Sansone, Udinese Fiorentina 3-1, Rodriguez, Oberkic, doppietta di Natale, Muriel. Basta, abbiamo finito. Ecco, questi sono i risultati finora. E vabbè, noi dobbiamo dirvi un sacco di cose, ad esempio un po' di numeri che voi ovviamente conoscete, cari ascoltatori, ma lo diciamo anche a tutti quelli che in questo momento non conoscevano questi numeri, e quindi gli diciamo: questi numeri sono 824 0024. E questo per telefonare direttamente qua a noi in questo momento. Se avete qualcosa da dire, se no potete anche non telefonare, no? Altre cose che possiamo dare, tipo SMS 349-238-6666 349-238-6666. Ecco, anche qui se avete qualcosa da scrivere, non è necessario proprio scrivere tutti quanti. Ed intanto ringraziamo tutti quelli che ci stanno mandando dei messaggi anche direttamente sulla pagina fans su Face. Dai e vai, è già lì collocata e stazzata, pronta alla bisogna. Non ho capito perché fai dei gesti, Luca Cancellara, cosa vuoi? No, perché ho capito adesso qual è il tuo inghippo, cioè tu mi hai invitato qui oggi pomeriggio soltanto perché Luca non ha la voce. No, esatto. Cioè adesso, da settimana prossima io sarò dove mi mandi? No, adesso io non ti mando, cioè voglio dire tanto, infatti le altre cose, le domande che ci si pone, no? No, me l'avevi spiegato in un'altra maniera, per quello avevo accettato. Sì, vabbè, adesso comunque manca poco, diciamo, alla fine di questa prima parte, non della trasmissione, ma anzi la seconda parte del campionato. Lazio che ha rubato, cioè, no, rubato non si può dire. No, non si può dire rubato. Quindi non si può dire. Diciamo che questo secondo Peruzzo, calcio di punizione, vediamo se arriva l'ennesimo giallo. Ecco l'ennesimo giallo. Stiamo parlando di Lazio-Atalanta, diciamo un gol falsato da un fallo di mano vergognoso di Floccari, che poi l'ha messa dentro. Esatto, che poi l'ha messa dentro e ha fatto finta di nulla, tra l'altro. No, però bisogna guardare gli occhi dei giocatori quando hanno inquadrato Floccari dopo il gol. Ha abbassato lo sguardo, sei capito che si sentiva colpevole. Sì, sì. Dai e vai, questa è la trasmissione, l'avete sentito ovviamente anche direttamente nei titoli di testa, e quindi l'unica cosa che non avete anche sentito è che non solo calcio, attenzione perché c'è forse un altro, un gol di prima, un altro gol, il Parma in vantaggio. Dovete avvisarmi quando c'è il replay, perché possiamo dire una cosa, è esattamente identico al primo gol fatto del Parma. No. Da Icardi in Sampdoria Juventus, quando si dice un gol fotocopia, esatto, praticamente è fuggito sulla destra, ha tirato e Buffon stavolta non l'ha neanche toccato, ma ancora vista, cioè, molto semplice, vanno dove non c'è Chiellini e quindi Chiellini manca, Chiellini lì manca e quindi di solito vanno lì appunto per metterla dentro. In questo caso no, dicevamo appunto dai e vai, trasmissione, attenzione che c'è un altro gol in questo momento, autogol della Torre. Autogol. Ce l'ha provato poco fa in occasione del gol di Floccari. Adesso questo qua non possiamo, Lazio 2, Atalanta 0. Anche questo è una bella diretta. In realtà poi per il fantacalcio bisogna capirlo, perché magari Mauri ha tirato in porta e Brivio l'ha deviato. No, non è tiro in porta questo. No, non è tiro in porta. Quindi la Lazio non riesce a fare un gol a senso compiuto. No, cioè, prima l'ha buttata dentro di mano. Ecco, io posso fare questa cosa, no? Perché è un gioco che c'è, cioè, un evento importante, cioè l'800 24 0024, qui dai e vai, sì. Radio 24, no, voglio dire, tra l'altro è già chiamato, attenzione perché c'è anche il gol del Cagliari, ma vieni, grandi rossoblu, grandi. E quindi per la situazione che si capovolge, colpo di testa su calcio di punizione, salta più in alto di tutti i conti e va. Ecco, Conti finalmente, cioè, ha beccato la porta. Scusa, Conti che salta più in alto di tutti, trampolino. No, vabbè, no. E l'altro che ha sbagliato a saltare, più che altro. Conti non può saltare più alto di tutti. No, dicevo che 800 24 0024 è il numero di telefono. Voi potete benissimo telefonare per avere la prima telefonata, perché questa è una trasmissione nuova. Quindi qual è il premio per la prima telefonata? Cancellara, adesso non è che devi per forza. No, cioè, da quando in qua, comportati bene. Il primo che arriva, da quando sono nato, allora, vince qualcosa. Sì, adesso, no, non è così. Adesso lo diciamo dopo. Adesso arriva la prima telefonata ed deve essere felice di essere la prima telefonata dentro una trasmissione. Poi che abbia un senso o no, tutto questo lo scopriremo poi in seguito. Però sarebbe interessante a capire, no? Okay, esatto. Perché poi dopo, quando poi tra 20 anni verranno riprese la prima puntata, no? Allora si prende poi. Ecco, ma chi è la prima telefonata? Quella, questa qui, la telefonata. Esatto. E tu puoi andare tra l'altro dai tuoi amici e dire la prima frenata sono io, e giù non ti invitano più, appunto non hai più amici per quella, pensate, giornata. Fra 10 anni, nel 2023, verrà trasmessa la prima puntata di Dai e Vai e ci sarete anche voi, chiamate 800 24 0024. Allora lo dico subito, a me è simpatica la squadra del Parma. Lo però, so che il tema però, è antipatia e simpatia, sì. Però a me la squadra del Parma mi è molto simpatica, anche quando c'era Tanzi, tra l'altro, meno, però meno. Adesso è più simpatica, però già allora quando c'era Tanzi già faceva delle cose e i vere conte, però già mi stava simpatica, sì. Non riuscivo a dargli proprio molto, cioè non mi dava molto fastidio, anche perché c'era un sacco di giocatori da Turam. Attenzione, no, niente, conclusione della Juventus, para con le sue salde mani a Ravucinic, para con le sue salde mani Mirante, tra l'altro Mirante è scuola Juve, si vede che para. Allora Luca, sicuramente saprai dirmi chi è che c'ha l'attacco in questo momento alla Juventus. Beh, sicuramente Lichtsteiner era in mezzo all'area. Cosa ci fa Lichtsteiner in mezzo all'area? Era in mezzo all'area Lichtsteiner, era lui. Comunque Vucinic nella Juventus è nell'attacco. Ecco, vabbè, non lo sai, diciamocelo, no, chiaramente, so. questo è il concetto di base, questo è un po' la cosa che succede. Vabbè, allora nel frattempo noi diciamo che ricordando i risultati, che la classifica, no, che Luca Cancellara ha già pronta in questo momento. Partiamo dall'alto o dal basso? Dall'alto, ovviamente. No? Quindi la Juve è prima, ormai ha già si è portata prima a casa il campionato, e questa è la cosa più importante. No, non è successo nulla, in realtà il risultato è quello che è. C'è un pareggio, purtroppo, che in vere conto della Juventus, qui lo diciamo già subito, tranquillizzatevi ascoltatori, noi non faremo finta di non tifare per nessuno, non saremo super partes, saremo assolutamente di partes e quindi saremo sicuramente in questo caso tifosi della Juventus, poi no, c'è niente anche della, della Sampdoria, no, queste cose, no, cioè, scusa, cose marginali, che ma saremo che cosa? No, intendo dire in generale, no, voglio dire, cioè, ci sarà attenzione a questa squadra che comunque sta dominando, comunque ci stava dominando il campionato, campionato tempo riaperto, fa. Campionato un riaperto punto, alla grande, un devo punto dire. In due partite, vorrei dirlo, cioè, un punto infatti, media retrocessione. No, adesso non media retrocessione. Sì, che tra l'altro quelli della Sampdoria conoscono benissimo. È per quello che ne parlo, perché ecco, lo so, quindi vabbè, un punto in due partite, media bene, retrocessione. Va bene, insomma. E intanto possiamo, abbiamo già direttamente una telefonata, no? A questo punto, pronto. Tu saresti pronto, il primo, saresti il primo, te lo dico già subito, voglio dire. Io ho telefonato, ho acceso la radio in macchina, ho sentito questi tre fogli che parlavano, che chiedevano uno che parlasse, allora ho telefonato. Ok, ciao, grazie, è stato bello, poi possiamo andare, pure avanti, la prima telefonata è arrivata. No, noi avevamo bisogno di una prima telefonata, no, non di un contenuto. Ragazzi, no, il problema era la prima telefonata, esatto, no? Rompere il ghiaccio, la prima telefonata, siamo a posto, a questo punto l'abbiamo risolto. No, Sergio, no, diciamo, lasciatelo pure andare, non tenetelo lì al telefono, provate pure andare via, cioè, proprio non vogliamo avere niente a che fare con Roberto, si chiama. Mi pare, no? Questo, ma ha avuto tempo di dire il nome? No, però Giovanni mi stava male con quella voce, insomma, quindi dà un po' fastidio. Vabbè, torniamo per favore, possiamo tornare ancora un attimo a questa diretta, perché 2-0 per la Lazio in questo momento, però niente di fatto, ma quella lì è partita finita. Eravamo rimasti alla classifica, campionato riaperto, Juventus 45, Lazio 42, e c'è ancora il confronto diretto. Ora, allora, il Parma mi sta simpatico. Tu un po' meno oggi, te lo dico già subito. Tu mi stai un po' meno simpatico. Secondo me ti stavo meno simpatico già da settimana scorsa. Già, ma settimana scorsa era odio puro, cioè era odio puro, cioè voglio dire, no, proprio non la Sampdoria, tu proprio. Odiavo solo tanto te in quel caso, no? Voglio dire, vabbè. Comunque, tornando a noi e tornando a queste partite che non finiscono mai, non devono finire mai, soprattutto per la Juventus sta perdendo, mancano 3 minuti al 45esimo. No, aspetta, più tutto il recupero, mi dai 3 minuti. Tutto il recupero. 3-4 minuti, no? Per il recupero in questo caso, vabbè, insomma, io direi che guarda, sono già, è già sei caldo, sfiancato, hai già caldo, di la verità, sto guarda, bollendo. Io faccio una cosa, diamo la linea al traffico, via, dai. Dai e vai, non è solo calcio. Posso dirti una cosa? Dimmi, trovo dimmi. Insopportabili quelli che hanno scritto Sansone, ma... Flocari Sansone, cioè, vabbè, cioè non è che abbiamo aperto la pagina fans su Facebook per sapere i risultati, cioè, chi è che ha segnato contro la Juve, tra l'altro, solo contro la Juve. Ma in realtà inneggiavano Sansone del Torino, hai capito? Ma, perché oggi ha vinto il Torino 3-2 con Siena, quindi... Sì, vabbè, adesso non è l'Italia, però Sansone, Flocari. Questa cosa un po' così, cioè, un po'... Comunque in questo momento c'è un corner per il Parma o no, per la Juventus. Non va a battere Pirlo. Stavolta è più lunga la parabola. Attenzione, niente di fatto. Niente di fatto. No, è pareggio. Spero. No, ma. È pareggio, ti dico che pareggio. Ah, no, ce n'è recupero. Perde. 3 minuti di recupero. Perde? No, 3 minuti di recupero, ah, vedrai che ecco. Segna. Vediamo di comportarci un po' bene. No, dicevamo, squadre che ami e squadre che odi. Esatto. E quali, soprattutto squadre che ti stanno antipatiche. Cioè la polemica di Marchisio, cioè, di questa settimana, imbarazzante per la sua inutilità, la sua superficialità, e frutto ancora una volta di una campagna giornalistica sportiva in fingardo. Arde Sattolla, non so cosa ho detto, però mi è piaciuta questa frase. Suonava bene, suonava buono, sì, non buono, buono. Non dispiace, guarda, poteva essere anche meglio, bisogna tirare fuori qualcosa di più. Esatto, però. Ricordiamo che Marchisio ha fatto un'intervista a Style in settimana in cui gli è stato chiesto qual era... Che ti ridi? Non mi piace ascoltare. No, lo so, ma soffro, non ti preoccupare. Peccato che non sono a casa ad ascoltarli, guarda. Guarda. Sarebbe proprio bello. Allora, sì. Marchisio Agna. Attenzione perché attenzione, c'è il Catania, Catania, Catania al centro, niente, non va, non va, niente. 1-0 per il Catania sulla Roma. Recupero anche lì, siamo al 46esimo, 3 minuti di recupero. Mentre attacca la Juve di brutto, Vucinic tenta di scappare, cioè, a centrocampo. Sì, adesso ci manca solo la radiocronaca. Dai, dai, fai già, sei già ridicolo, no, senza radiocronaca. Stavamo parlando di Marchisio. Sì, stai parlando di acciughe tu prima, in realtà. No, me ne sono mangiato un vasetto intero. Esatto. Mamma mia. Perché come si sa, se, e tra l'altro, se ci sono anche delle altre indicazioni, potete anche darcele. Parma vicino al gol ancora una volta, ma veramente non si può andare avanti così, eh? Esatto, no, cioè, esatto. Dire, non è una bella partenza, intendo dire, non della Juve, ma sì, della trasmissione. Mi sento già male, io già ve l'ho detto, già... è un segnale, un punto in due partite. Sono momenti, vogliamo dire che intanto in questo, per quelli che si sono messi in questo momento all'ascolto, diciamo tranquillamente l'Udinese ha asfaltato la Fiorentina con un 3-1, è la seconda sconfitta consecutiva la Fiorentina, tra l'altro, ha perso, e poi, in casa. Fiorentino qua, no, l'anti-Juve, per forza, la Juve perde, loro perdono. Sai cosa si dice in questa occasione? Che non gli ha fatto bene la pausa di Natale. Invece attenzione al Napoli, attenzione al Napoli. Napoli-Palermo, un bel 3-0, esatto. E Maggio Hiller Insigne, che io tra l'altro ho al fantacalcio, spero che sia entrato, anzi sicuramente no, sia entrato. Sì, è entrato e ha segnato. Perché tanto non c'è, no, sì, perché c'è Toni anche, quindi non poteva. No, ma Toni non è entrato. Non è entrato, no, non quindi è entrato. Va benissimo. Poi abbiamo ancora altri risultati. Lazio, che appunto abbiamo appena detto che sta vincendo 2-0, giusto? Sì, ecco, 2-0. Aspetta che devo segnarmelo perché ho segnato ancora uno. Il gol di Floccari, sì. Un po' di mano. D'altra parte c'ho anche 1-0 per la Juventus, non ho avuto ancora il coraggio di mettere l'altro uno. Attenzione, insomma. È entrato Toni. No, è entrato Toni. No, stai scherzando. Sì, sì, vabbè, è entrato Toni adesso. È entrato, scusa. Toni al 26esimo secondo tempo. Ecco, quindi prende il voto nel fantacalcio. Beh, sì, se è probabile di sì. Probabile di sì. E mi toglie il gol di Insigne. Questo mi dà abbastanza fastidio. So che, cari ascoltatori, tutti dicono: ma cos'è il fantacalcio? Cos'è il fantacalcio? Non ci siamo mai contati noi che giochiamo al fantacalcio. Però diciamolo chiaramente: un tiro da lontanissimo. Vergogna, Sergio. Imbarazzante. È veramente finita. È finita. Parma Juve 1-1, campionato riaperto. No, campionato finito ormai, perché riaperto. Vincerà sicuramente l'Inter, Napoli. No, riaperto. Il Milan no, perché no. Scusa, ma la Lazio può vincere lo scudetto? Ma sì, perché è vietato? No, no, però può farcela, no? Cioè, dici che la Lazio può vincere lo scudetto? Sì, io penso che possa farcela, tranquillamente, vabbè. In questo caso. La Lazio in questo momento ha 3 punti dalla Juventus, allora, Juventus 45, Lazio 42. Non siamo però riusciti, e tiro su un attimo il microfono perché per un po' mi si spezza la schiena, forse di stare in basso, cioè, mi sono piegato quasi come la Juventus si è piegata nei confronti del Parma, no? Bene, allora volevo soltanto dire questa cosa. Allora, finiamo il dibattito che vorremmo fare anche con voi ascoltatori, se proprio avete voglia, perché se non avete niente da fare potete anche fare, inventarvi delle cose più originali, però la cosa che ci interessa è questa cosa. Ognuno di voi ha sicuramente una squadra che sta antipatica. Sì. No? Sì. Luca. Vabbè, devo dirla. No, l'altro Luca. Ah, scusa. Devo dirla. Guarda, questo gioco qua lo porto avanti fino a maggio, ve lo dico, siamo già tranquilli. Luca! Sì, no, ma oggi ci chiamiamo uguale perché tanto tu non hai la voce, esatto. Rispondo io per te. Ecco, allora, Luca. Allora, tu che hai la voce. Io che ho la voce. Dici qualcosa. Deve essere di serie A, serie B, perché sai che io sono affezionato alle serie inferiori. Vorrei subito chiedertelo, dopo ne parliamo, vero? No. Cioè, No. Cioè, adesso non è che ci allarghiamo e parliamo anche dei tifosi della prima, seconda divisione. Sì, ho capito che tu hai avuto speranze. Io t'ho intortato con questa storia. Io ho portato qui le bandiere. Ti ho intortato con questa storia, non solo calcio. E tu pensavi, allora posso parlare anche del Venezia. Sì, esatto. Proprio questo. No. Ma guarda, Venezia per me vuol dire Gondola e San Marco. Basta, sì, fine. Cioè, basta. Sì, ma anche tu con questi stereotipi, ci allarga un attimo i tuoi orizzonti. Ho capito. Vabbè, dai. Cioè, un campo di calcio a Venezia non esiste. No, escludendo le squadre venete e la Juve, direi che tutte le altre mi saranno più o meno simpatiche. No, scusa, squadre venete. La Juve, Sì. Anche si può dire, cioè, tu non sopporti le squadre venete e la Juve, sì. Cioè, hai capito? Finita già Veneto la carriera. Più uno, Juve. Già finita la carriera. Devi stare qua tutto il giorno. Tu, no, non è che magari vai via. No? Un certo io, a un certo punto, sì, quando so che non potremo più parlare della prima e seconda divisione, io deciderò di andarmene. Dove? Dove? Cioè, dove vai? Non è che dovete guardare così male perché ho deciso di andarmene via. Cioè, no, stai in redazione. No, vado a fare un giretto, vado a fare una vacanzina. Vado in spiaggia, vado a giocare a pallavolo, a beach volley. Oh. Scusa, siamo a gennaio, a gennaio. È proprio per questo. Beach volley a gennaio, vabbè, Perché si può giocare anche all'interno. Perché io vi saluterò e andrò ad assistere ad un torneo di beach volley indoor femminile. No. Okay. No. Come no? No, non si può, no. perché cioè, dai, è troppo umido, dai, qui vado a 25 gradi, vado a bermi tu qualcosa. Tu non sai neanche le regole del beach volley femminile, ma questo è relativo, cioè, non è importante oggi. Dire, cioè, allora te l'ho già detto, mi era sfuggito femminile, io pensavo fosse maschile. No beach volley infatti, femminile non ve l'ho detto, assolutamente tu stai qui, il Miss X non è ancora iniziato, quindi stai qua, non avere il tuo solito atteggiamento. Non essendo agosto i costumi sono un po' più lunghi, per cui hanno i pantaloncini, hanno le canotte. Beach volley femminile è quello che c'hanno il costume modello finito. Guarda, io sono contrario, questa qua è una trasmissione di calcio, in Satola è anche un velo maschilista. Ma perché hai deciso allora di mettere il sottotitolo non è solo calcio? Adesso dobbiamo parlarne. Ma proprio beach volley, questa volta il beach volley, poi sarà, che ne so, il calcio gaelico, il rugby subacqueo, il calcio in salita. Va bene, adesso non ti allargare troppo. Proprio oggi però beach volley. Sì, vado, sono già pronto con l'infradito. Chi è che si sta arrabbiando? È Colantuono che è andato dall'arbitro e gli sta dicendo complimenti. Per la divisa. Sì, probabile. No, grande polemica di Colantuono, perché ricordiamo la Lazio ha segnato un gol con Floccari che ha toccato di mano prima di tirarla in porta, e poi il secondo gol grazie a un autogol. Sta tirando giù tutti i santi dal paradiso, Colantuono. Waiting for the end of time, was waiting for the biggest wave of my life, but when I opened my eyes, it was a quiet morning. No bell was ringing, but the sun was ready to shine. Ooh, a monk man felt a change in his heart. That testimony, should I light the fire? No, guarda, metterò canzoni peggiori, non soltanto queste. Ma tu la canzone l'hai messa per distogliere l'attenzione dal fatto che io sto andando a vedere il beach volley? No, l'ho messa, punto, io... e basta, la teniamo lì, la lasciamo lì in questo caso. Però la cosa più interessante è, ricordiamo il numero, 800 24 0024. Allora, rilassati. Era più rilassato in studio Luca Gattuso, avete sentito, è lui quello che c'ha la voce rauca in questo caso. E dunque, siamo partiti alla grande, sì. Luca. Cioè, te dico proprio, monitoriamo subito la tensione dei nostri ascoltatori, sì, che dicono: speriamo che sia la prima e anche l'ultima trasmissione, che inutile confusione. Questa è un po' la tua voce che crea questo scompenso un po' su tutti i nostri ascoltatori. Vabbè, diciamo che intanto abbiamo avuto la prima telefonata, che non è stata granché. Ciao, bro, sentivo voi. Diciamo, non ha avuto sti grandi spazi. La telefonata è arrivata sull'800 24 0024, 800 24 0024. Voi potete telefonare, ovviamente è libero il numero, anche perché noi occuperemo altre linee per avere degli altri ospiti. In questo caso abbiamo un altro ospite, no? E che ospite! Abbiamo al telefono il commissario tecnico della nazionale Under 21, Davis Mangia, che è qui con noi. Mangia, buongiorno. Buongiorno, buonasera a voi. Come va? Tutto bene? Bene. Mi scuso con lei, purtroppo Luca Gattuso ha questa voce, non è granché, l'unica cosa che siamo riusciti a recuperare. Senta, Mangia, lei vive visceralmente le partite, quando in panchina urla, ma quando le va via la voce cosa fa? No, sono fortunato da quel punto di vista, non va via la voce. Non è capitato di qualche abbassamento, ma niente di che, non ho mai dovuto prendere provvedimenti. Ma lei mette paura ai suoi giocatori? Ha paura di lei? No, non credo proprio. Però la prendono in considerazione, non hanno paura, però tutto sommato, no? Cioè, in qualche modo, no? Quando deve farsi... Credo molto. Credo più nell'allenatore autorevole che in quello autoritario. Sì. E quindi l'autorevole, quindi ci sta dicendo, l'allenatore autorevole non perde mai la voce, questo è il concetto di base, cioè non urla mai più di tanto, insomma. E questo è il passaggio? No? No, urlare mi capita. Ah, davvero? Quando è che le è capitato l'ultima volta in nazionale? All'ultima partita sicuramente. Non vado molto più in là di solito. È capitato quasi sempre, quindi ecco. Ho capito. Allora lei farà in questa settimana uno stage a Coverciano con sì, dei giovani, delle belle speranze dell'Under 20 e dell'Under 21, giusto? Sì, sì, facciamo da questa sera ci raduniamo e da domani cominciamo a lavorare un po'. Beh, intanto il Segna ha segnato, no? Sì, ho visto. Oggi, ho visto il gol. Così. Va bene? Così. Va bene. Sì, come no. Va però Ciro ci lascia un po' così, eh? Ciro Immobile ci lascia un po' perplessi. No, no. Oggi si è preso, aveva una giornata di riposo che ha squalificato. Quindi... Sì, no, ma a parte questo, no, devo no, dire, no, non è no, che... No, sono molto... sta facendo bene, io sono molto contento di lui. Sì. Ecco, ragazzo... Beh, anche se non l'avrebbe chiamato, no? Non l'avrebbe chiamato, infatti. Esatto. Sarebbe esatto. Stato una cosa semplice. Senta, lei non è che gli interessa molto se un giocatore gioca o non gioca, perché ha convocato Samuele Longo, che nelle Spagnol è stato messo un po' in disparte. Immeritatamente, mi sembra, tra l'altro. Ah, quindi fa polemica con l'allenatore delle Spagnol? No, non è questione di far polemica. Guardi, con Samuele ho parlato 5 minuti fa, che stava arrivando in ritiro... parlano i numeri, almeno fino a prova contraria, almeno i numeri avranno un senso. Stava facendo, ha fatto presenza, ha fatto gol. Non capisco perché è stato messo in. Dopo l'hai cambiato allenatore, mi sembra, è qualcos'altro, forse nella società. Non trovo una motivazione plausibile per cui sia stato messo da parte. Ecco, facciamo però una domanda: facciamo una domanda di quelle serie, di quelle che. Ecco, campionato riaperto? Non è male questa. Pare che non è male, non la butti via così. No, io sinceramente 15 giorni fa sentivo il campionato già chiuso, la Juventus ha già vinto il campionato, adesso sono passate due settimane, la Juventus non ha vinto due partite e adesso gli dice che è riaperto. No, adesso devi se... come, penso che tutti, no, io penso che tutti pensino che, almeno dal mio punto di vista, la Juventus rimane la squadra che ha qualcosa in più delle altre. Poi ci può stare anche durante una stagione di accorciare un po' le distanze, o che il campionato, cioè dire che il campionato a dicembre potesse essere già chiuso mi sembrava un po' esagerato. Ecco, Davis, ti do del tu, così facciamo finta di conoscerci tanto tempo, io prendo anche un po' autorevolezza dentro la trasmissione, devo dire. Non devi rispondere proprio a tutte le nostre domande, quella lì era una domanda così tanto per avviare un po' di te, no, perché sennò diventava poi imbarazzante, perché dire campionato chiuso non andava bene in questo momento, però la Juventus... Un punto in due partite, tra l'altro con delle squadre, insomma, delle forte squadre. Squadre. Infatti, molto simpatica la Parma, meno la Sampdoria, però. Ma anche ben allenate, mi sembra. Sì, assolutamente, perché, assolutamente, come negarlo. Ma che propongono un buon calcio, insomma, sì. Sicuramente. Ma quindi questo soltanto questo punto... Cioè la crisi Juve, anzi, allora, l'altra domanda è crisi Juve, guarda che non è male anche questa, chiuso crisi Juve, esatto. No, vabbè, sono cose che vabbè, lei non vuole rispondere, se non vuole rispondere lo dica, però voglio dire, non è che noi... va bene anche perché la prossima la Juventus ce l'ha in casa con l'Udinese, mica una squadretta così, cioè oggi di Natale doppietta, cioè... potremmo dire gara difficile, esatto. Che sulla da qualsiasi pronostico e via così. Perfetto. Ecco, vabbè, insomma. No, noi parleremo invece di cosa farà con questi giovani. Ovviamente dobbiamo parlare per forza. Una delle domande che ormai si fanno sono quelle classiche. Balotelli. Balotelli è un giocatore della Nazionale A. No, ma dico è giovane, no? Però voglio dire, questi giovani. È un giocatore con... giovane. Di assoluto talento e mi auguro che trovi un parrucchiere diverso, no, vabbè, a parte questo, un giusto equilibrio per confermare le qualità importanti che ha. A parte gli scherzi, però questa è la speranza, cioè c'è una speranza, però tutte le volte che ci sono delle cose, no, che accadono, ma penso che la persona più di Mancini, che è quello che lo sta gestendo da più anni, nessuno conosca quel ragazzo, quindi insomma, quindi penso che sia un giocatore su cui bisogna insistere assolutamente. Ecco, però voglio dire, ci sono anche campioni che si perdono, no? Per strada, o no? Cioè, voglio dire, non è detto nella storia del calcio, nella storia del calcio c'è qualcuno, no? Che tutti quanti le grandi speranze, che però si sono persi, ma non per motivi calcistici, ma per motivi caratteriali o cose di questo genere. No, no? Io penso che lui abbia la forza, abbia ancora tutta la forza e tutta la possibilità di rifare vedere cose che ha già fatto, perché senta, è un giocatore di grande qualità, l'aveva già dimostrato. Lei ha convocato uno dei giocatori di cui si parla di più in questi giorni, cioè Saponara dell'Empoli. Poi ci sono quelli che sanno vita, morte e miracoli di Saponara, quelli che non sanno niente. Lei è fra i primi, indubbiamente. Cioè, ci descriva Saponara, che sembra diventato un Messi dei giovani italiani. Adesso lasciamolo tranquillo, che tra l'altro è un ragazzo stra-riservato, con dei valori importanti, quindi lasciamolo bello tranquillo nel suo... Davis, non gli è piaciuta neanche una domanda, Non gli è piaciuta neanche una domanda. No, assolutamente. Però Saponara ci dirà qualche cosa. È un ragazzo... assolutamente. È un giocatore che ha qualità importanti, perché già quando un giocatore va sotto la lente di ingrandimento di quelle società di primo piano, vuol dire che le qualità ci sono. Davis... Arriva il traffico per il momento, prendiamo il traffico, poi sentiamo tutto il resto. Dai e vai, non è solo calcio. Però per il momento parliamo di calcio con Davis Mangia. Sì. Cioè, mica... Mister Mangia, mi piace chiamare Mister Mangia perché fa molto giornalista, capito? Poi quella R che c'hai tu quest'oggi va bene. Senta, voi a giugno andrete in Israele per le finali dei campionati europei di calcio Under 21. Non è come andare a giocare in Francia o in Norvegia, no? Oh, non ti sfugge nulla. No, per me non cambia assolutamente niente. Noi andiamo a fare delle partite di calcio, quindi non è che ci interessa il resto. Farà più caldo, penso, rispetto alla Norvegia. No, quello sicuramente, però magari anche a livello di situazione di sicurezza ci saranno più controlli. No, guardi, io ci sono. Almeno io sono stato per i sorteggi e non ho visto nulla di particolare. Quindi noi andiamo là con grande serenità e cercando di fare bene l'europeo. Va bene. Nel girone c'è la Norvegia, che vabbè. Poi Israele, che vabbè. Cosa vuol dire? Cioè, si sa. Cioè, fai la domanda, non è che dici le cose che non dici. Vabbè, Ce la giochiamo con l'Inghilterra per il primo posto. No, vedi. Perché, allora, adesso senza fare gli ipocriti, perché sennò è normale che a livello di opinione pubblica si possono dire che Inghilterra e Italia sono le due favorite per arrivare alle semifinali. Si può anche dire che l'altro girone sulla carta è a livello di nomi di nazionali è più duro, però qui abbiamo l'Inghilterra, vabbè, penso che non bisogna dire niente. Israele, che è il paese ospitante e che quindi penso che avrà anche un certo seguito di tifosi, l'ambiente, penso che vorranno far bene, e la Norvegia, non dimentichiamoci che ha eliminato la Francia, che sulla carta, andando avanti a parlare sulla carta, era considerata insieme alla Spagna forse la miglior nazionale Under 21 in circolazione. Quindi è inutile avere prima di sottovalutare gli avversari ci penserei bene. Quindi è meglio che le partite vengano giocate prima. Sì, è inutile avere questo atteggiamento un po' così superficiale di fronte a questi avversari. Vabbè. Insomma, ecco, vabbè. No, ecco, una cosa che ho scoperto, so che è un po' così personale come curiosità, no? 2008-2009, ha allenato Livrea lei? L'ho detto male. Neanche questa piace come domanda. Cambio, non è la domanda. No, perché... orgoglioso, non solo 2008-2009 Livrea, 2009-2010 la Valenzana. Sì, no, ma io mi concentravo 2008-2009 perché non me ne sono accorto. Siccome sono di Livrea, no? Non mi sono accorto che lei ha allenato Livrea. Cosa... è normale, perché non sono. Ci sono accorti l'anno scorso di me, prima non si accorgevo. Ma cosa è successo a Livrea? Cioè, come mai? È sparita poi quell'anno. Ah, proprio Livrea anno, proprio poi, sparita, ho capito. Poi è proprio fallita la società, è sì. Sparito tutto. Ah, la società è fallita, non è dentro il gioco. Vabbè, allora, quali sono i giocatori che invece voleva convocare e che ha lasciato a casa? Che tra l'altro si troveranno stasera, lunedì, martedì. Quando? Cioè... Di questo stage? Ho convocato quelli che volevo. Tutti? Ho convocato quelli che volevo. Allora facciamo così, il primo, tanto per stare in tema, il primo dei non eletti. Cioè quello che... No, ma noi abbiamo fatto questo secondo stage. Prima l'abbiamo fatto uno stage a dicembre, ho visto alcuni giocatori. E adesso ne vedo in questo stage, ne vedo altri. Molto semplicemente. Quindi alla fine penso che in questi stage, o in questa prima parte di mia gestione, penso che i migliori giovani, compresi quelli che arrivano in questo stage qua, siano stati visionati. Ma lei quante partite vede alla settimana? Cioè durante la settimana, durante il mese? Cioè, durante il weekend, diciamo che a pieno regime c'è il venerdì l'anticipo di B, al sabato c'è una partita di B o l'anticipo di A, o a volte tutte e due. una gara la domenica e a volte il lunedì c'è il posticipo di B, quindi diciamo che balliamo sulle 3-4 partite nel weekend. Poi, ma tutte dal vivo? Delle coppe o... No, queste sto parlando quelle dal vivo, di solito sono dal vivo 2 o 3 a settimana sempre, poi dopo se c'è la settimana con le coppe europee o con la Coppa Italia aumentano. Io e i miei collaboratori, perché noi siamo in, con tutto lo staff dell'Under 21, riusciamo a, a monitorare, penso bene, la, la Serie A e la Serie B, sicuramente. Poi abbiamo, ci sono altri osservatori che comunque seguono anche tutte le altre categorie. Beh, comunque rispetto al passato mi sembra che soprattutto in attacco ci siano molti giocatori, giocano spesso, cioè Immobile, Insigne, anche... Ha ragione, penso che... Caprari nella Pescara, cioè... I giocatori offensivi mi sembra che anche in Serie A stiano trovando parecchio spazio, c'è un po' meno di, sia appunto, anche dal punto di vista numerico c'è un po' meno disponibilità, diciamo, sui, sui difensori, soprattutto dal punto di vista numerico. Tutto sommato la crisi economica del calcio a lei conviene, perché si va un po' sui giovani che costa meno. Sì, io guardi, io spero sempre che lo facciano per, che lo si faccia per convinzione. Se poi lo si fa per la crisi economica, alla fine il risultato è lo stesso, e quindi va bene uguale. Va bene comunque. Sì, per me va bene. Ecco, intanto c'è Mazzarri, mi pare. Male, poi ci siamo un pochino ripresi da un punto di vista della fase difensiva, perché ballavamo, insomma, non c'eravamo troppo. Senta, non ha detto che è Mazzarri per il momento, è già nella fase in cui è rilassato. Visto che lei conosce Zamparini molto bene, come sta vivendo queste ore? Chi? È Zamparini. Ah, non lo so. Dai, che domanda è? Scusa, non ho questa, idea. Adesso, non ho proprio idea. Sono cavoli suoi. Non ho proprio idea, questo dopo, non lo so, io... Penso che bisogna, per fare le valutazioni su queste ultime stagioni così del Palermo, forse bisogna guardare i numeri, e io però io guardo invece l'età. Non è compito mio, dovete guardarli voi i numeri. Guardiamo la sua età invece, no? L'è nato nel 74, sì. Giovanissimo, esatto. Già allenatore della nazionale giovanile, questa, insomma, lei già immaginava di essere a questi livelli? No? Già alla sua quell'età. Io quando ho cominciato ad allenare, sinceramente avevo pensato di lavorare nel settore giovanile, e poi pensavo magari verso i 35 anni così a provare un'esperienza in una prima squadra. Invece sinceramente già a 30 anni ho cominciato a avere la prima esperienza con le prime squadre. E a 37 ho avuto l'opportunità di allenare in Serie A, quindi? Poi le cose sono cambiate, quindi bisogna cogliere le cose alla giornata, non bisogna fare troppi programmi. No, soprattutto fare valutazione a questo punto, bene, no? Mi sembra, no? Anche un po' di più, anche molto bene. Molto bene, così, quindi diamo un voto alto, sì. A questo punto. Senta, fare i giocatori... No, molto bene a livello di soddisfazioni. Certo, per quello che assolutamente. Domani bisogna cercare di far meglio rispetto a quello che ci ha fatto oggi. Certo, soprattutto vincere. Fra i giocatori che ha in rosa e ha convocato Coverciano, secondo lei ce n'è qualcuno che vediamo in Brasile fra un anno o un anno e mezzo più o meno? Ma, qui dopo si va in un discorso che spetta a Prandelli. Io me lo auguro, perché secondo me qualche giocatore... Tipo? Faccia dei nomi, dai! No, ma neanche! Dai. Vabbè, gli iniziali. Ma mi sembra che già, insomma, un po' di ragazzi siano già entrati o stabilmente o nell'orbita della Nazionale A, quindi questi ragazzi io mi auguro che trovino, che abbiano questa possibilità, ma glielo auguro per loro, perché se lo meritano anche, perché sono ragazzi che hanno qualità dal punto di vista tecnico, ma sono anche dei ragazzi che hanno dei valori importanti anche extracampo. Ecco, ne faremo, abbiamo una telefonata se non sbaglio, pronto? Sì, buona... Pronto, ci senti? Perfettamente. Bene, allora facci la domanda, che magari così tra l'altro magari risponde a questa domanda. Dai, vai, dici. Non mi ricordo se gli avete chiesto, non so se, qual è la squadra che ho. Guarda, noi vorremmo chiedere quella proprio fare quella domanda lì, tra l'altro, volevamo fare. Però Qual è la squadra? Davis, cosa ti dici? Qual è la squadra? Non so, adesso vediamo se risentiamo di nuovo quello di Umberto, mi pare si chiama. Umberto? Sì, Umberto. Sei tu. Illuminaci d'immenso. Qual è la squadra? Qual è la squadra? Finisci la frase? Che odio. Ah, tu hai lui, sì. Davis Mangia? Lui. Ah, ecco, sì. Davis, la domanda è un po' quella legata un po' a tutta la polemica con Marchisio, no? Che in realtà ha detto che è un po' antipatico il Napoli, ma mi sembra sciocchezza rispetto all'odio che c'è nei confronti della Juventus, voglio dire. Ma penso che abbia risposto bene Mazzarri. Quando una squadra è un po' o subisce questo tipo di atteggiamento, vuol dire che sta facendo bene. Non era Conte delle squadre che o Conte, ma anche Mazzarri mi sembra che l'abbia poi sottolineato. Quindi quando una squadra fa bene è normale che magari alle altre o agli altri tifosi non sia simpatico. Sì, intanto però Umberto non ci ha detto. Umberto, tu qual è quella che ti sta antipatica? Guarda, io voglio vincere tutti i premi, come prima telefonata. Come no, questa è già seconda, guarda, già mi sembra che è pieno di contenuti, tra l'altro, in questa telefonata. Dici invece la squadra che ti è stata antipatica. Volevo vincere tutte, allora le odio tutte. Ah, in blocco? Ma va bene. Se ci avete un po' di pazienza, vi ricordate nell'82 Juventus-Fiorentina a pari punti? Non c'ero, non ero ancora nato. Nell'82 Juventus-Fiorentina, la Juventus giocava a Catanzaro. Sì. Io sono un ex Juventino, anzi, uno sfigatato ex Fiorentino. Quella volta là diedero un rigore alla Juventus inesistente. E lì ho smesso di seguire il calcio. Ho detto: questo non è calcio, c'è qualcosa che non capisco, ma non è calcio. Ho capito, va bene. Ti ringraziamo, ti facciamo poi lo schemino prossimamente. Intanto, nel frattempo, Davis, da parte ognuno merita un po' gli ascoltatori che rispetto con questa voce, poi non possiamo tirare nient'altro da questo punto di vista. No, comunque, tu non hai una squadra antipatica, no? Che ti sta antipatica, assolutamente. Dai, no, potresti neanche dirlo, tra l'altro, per contratto, immagino. Ce l'ha, ma non può dirlo. Ciao, dai, si sente lontano. Dai, no, lo vorresti dire, ma non puoi dirlo. No, ma fai bene. Talmente poche, quindi. Fai bene. Noi te diremo ancora, immagino, prossimamente. Adesso abbiamo il tuo numero, quindi possiamo telefonarti spesso e volentieri. Ma dimmi comunque, come accogli i ragazzi? Cioè, qual è l'attacco? Tu hai già provato l'attacco, il discorso che farai a tutti i giovani? Ormai mi conoscono. Vabbè, ma c'è sempre un attacco, no? Cioè, la prima frase che dice al nuovo arrivato, cosa dici? Rilassati. La borsa, benvenuto. Sì. No, ma quello. Sì, camera, bisogno, neanche la camera, le loro qualità. Vabbè. No, invece. Mica bisogno di essere tensi, solo tensi per giocare a calcio, ci manca anche quella. No, ma non so, ma anche la camera, dei numeri, la borsa, queste cose qua. No, roba del segretario. Vabbè. Niente. Non vuoi dare confidenza. Ah, ma tu sei uno che non dà confidenza ai calciatori. Mangia una cosa: i giocatori che vengono convocati la prima volta nella nazionale Under 21 devono fare qualcosa, c'è qualche gioco, qualche specie di pegno, qualche. Scemo, devi domandare. No, almeno che sappia io, no, poi non so se qualche d'uno che è più presente. Fanno i gavettoni, fanno delle robe tra di loro o hanno qualche impegno da pagare, non lo so. Che sappia io, no. Ma neanche quando segnano una tripletta in una partita ufficiale, qualcosa? No. Vabbè, non lo so, spero che qualcuno gli capiti in Under 21 di fare una tripletta, perché quando uno fa tre gol probabilmente si vince anche la partita. Okay. Quindi, se dovesse capitare, ci penseremo. Buona serata, grazie. Grazie. Serata. A presto. Presto. Arrivederci. Altra telefonata, Simone, pronto. Buonasera, grazie, sono Simone da Verona. Beh, grazie, non abbiamo ancora fatto niente noi. Sì, dici. Volevo chiedere cortesemente all'allenatore Mangia, però non so se è ancora collegato. Vabbè, faccio finta io. Tu fai finta che faccio. Dai, tu facci la domanda, magari ce la teniamo buona. Dai, dici. Come mai non riusciamo in Italia a tirar fuori tutta una serie di giocatori di vero talento, come sta facendo la Spagna nel corso degli ultimi anni e come ha cominciato anche a fare comunque la Germania, che ha abbassato notevolmente l'età media delle sue squadre di campionato, nonché della nazionale, tirando fuori tra l'altro dei giocatori di tutto rispetto. Ah. Ma secondo te non ci sono tanti, ci sono pochi giocatori giovani? Immobile, Insigne, non sono dei brutti giocatori, no? Verne, Caprari del Pescara. Volevo dirti questo, che la situazione è veramente incresciosa, perché Conte non si fa ancora vedere. No, ma adesso arriva. No, arriverà. Conte. Sì, c'era brutto tempo a Parma, pioveva. Adesso col Fon si sta asciugando un attimo i capelli e arriva. 800 24 00 24 per telefonare qui direttamente in trasmissione e cominciamo a trattare questo tema che ci ha un po' appassionati e che ci ha lasciati un po' perplessi, perché in realtà non se ne parla, anzi anzi si è confuso una leggera antipatia per odio, odio, no? Sì, odio. Ed è stato cavalcato da parte di tutti quante le testate, anche perché molte volte non ne sapevano che cosa fare per tentare di attirare l'attenzione, così anche noi ne approfittiamo di questo tema, sì. E chiediamo a voi qual è la squadra antipatica. Non vogliamo, forse sarebbe anche interessante sapere perché, no? Cioè, sicuramente sì, vi ha portato via lo scudetto, sicuramente ha giocato male. In realtà, cioè, come abbiamo già più volte indagato, in realtà non è molte volte soltanto antipatia, ma bensì anche un velo di odio, no? Sì, di non sopportazione nei confronti di quella squadra. No, non fare tanto subito, capito? No? Cioè, proprio odio, cioè, diciamolo. Odio, cioè, proprio odio. Odio quella squadra, che non vuol dire niente, perché poi dopo è un odio che ti trascini per 20 anni, la squadra è già cambiata, sì, no? Rotolante in continuazione, e quindi questo in qualche modo ha cambiato anche gli stili. In realtà questo è sempre accaduto, c'è sempre una squadra che ti è stata particolarmente antipatica. Sì, però poi sono cambiate le cose, perché ad esempio la Juventus c'è stato un periodo in cui non era sopportata dalla Roma, poi da Napoli, adesso molto più dalla Fiorentina ad esempio, no? Cioè più odiata dalla Fiorentina. Sì, più la Fiorentina è costante, costante, sì, costante, c'è però sempre stata, poi gli hanno parlato via Baggio, però, sai, quelle robe, esempio, un po' così. Il rapporto fra interisti e juventini, che non è mai stato fraterno. Sai che sei anche un po' sensuale adesso. Davvero, non vorrei dire, la butto così, con questa voce. Ma pensa a Sergio, questa sera quando saremo in onda, sì, dalle 22 adesso, adesso, non esageriamo adesso, con calma. Dice, quindi dice Fiorentina-Juventus, però per un certo periodo c'è stato Roma-Juventus, esatto, e poi c'è stato Napoli-Juventus, no? È ovvio, no, che ci sono. Però mi è sembrato assolutamente esagerato la famosa antipatia. Però ci sono delle squadre minori, cioè, che noi non sappiamo, no? Sì. Cioè, per esempio quelli del Parma, scusate, che oggi hanno pareggiato tra l'altro con la Juventus, grazie a Sansone, guardalo qua. Che tra l'altro c'è qualcuno che anche nel fantacalcio, ce l'avranno nel fantacalcio Sansone, attenzione, no? Non bisogna confondere con Sansone del Torino, esatto, Sansone del Parma, esatto. Sansone del Parma, che tra l'altro sta facendo un campionatino mica da ridere, perché mi pare il quarto o quinto gol che ha fatto, se non sbaglio, eccolo qua. Però nel frattempo andiamo a sentire anche Conte, che è appena arrivato su Sky. Primo, secondo tempo, episodi, Giovanni Guardalà, sentiamo. Secondo me è arrabbiato. Sì, partiamo dall'analisi della prestazione. Secondo me c'è stata una buonissima Juventus nella seconda fase del primo tempo, una Juventus in controllo della partita nel secondo tempo, poi è arrivata questa ingenuità sul gol, adesso non, senza voler colpevolizzare nessuno, però come è accaduto nella Sampdoria, ecco, si sono infilati da quella parte. Insomma, è meglio recuperare Chiellini al più presto. Adesso. Ma diciamo che sul gol io c'ho la mia colpa, come lui, perché non era in campo. Ho chiamato il velo sulla palla per Vucinic, ho chiamato l'ascia, Mirko ha lasciato la palla, c'è stato un intercetto da parte di Paletta, che poi è stato bravissimo a mandare subito in verticale. Quindi colpa di Conte. C'è stato il gol di Sansone, quindi diciamo che il gol del Parma mi assumo io la responsabilità, c'è stata questa chiamata di questa giocata con relativa esecuzione da parte di Vucinic. Hai capito, l'allenatore difende la squadra. Abbiamo capito, è colpa sua. Va bene, Conte, poi? Un peccato, perché secondo me questa è una partita che comunque noi meritavamo di vincere per l'occasione che abbiamo creato. O come quella della Sampdoria, tra l'altro. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, che era imbattuta in casa. Abbiamo avuto tutta l'opportunità oggi per portarla a casa. Sì. Purtroppo ne è venuta. Parla anche tu, Luca. Sì. Che schifo, di trasmissione sta facendo tra te e Conte. Scusa, aspetta, secondo me oggi lui è messo meglio di me. Oggi, ma solo oggi. Una delle rare volte è ricorso soltanto a due cambi questa volta. Tante volte. Vabbè, domande ficcanti anche qua stasera. Ma paura, si arrabbia. Se si arrabbia, la valutazione è stata di rimanere. No, di solito sai chi è che lo prende in giro? Lo prende sempre in castagna. È Massimo Mauro, perché si conoscono e allora. Adesso gli dice qualcosa. Adesso dice sempre qualcosa. Sì, ma hai fatto fuori a cena e quindi dice delle cose brutte. Comunque, mentre attendeva la domanda, Conte c'aveva la bocca paperino, sai, con le labbra un po' schiacciate. Vuol dire molto, vuol dire molto. Adesso va bene parlare anche di altro, però adesso così proprio tecnico in questo modo non mi sembra poi eccessivo. Non vorrei che quella gente non si appassionasse un po'. No, c'era la bocca a paperino. Cosa dice Conte? Sentiamo. Aspetta, arriva, calma. Che dispiace. Mettere così a sorpresa. Ha lasciato due punti qui a Parma contro sicuramente un'ottima formazione. Però che sta facendo molto bene. Sai, si aspettava che si riaprisse così il campionato, non era mai chiuso. Il campionato non era mai chiuso perché Campioni d'Italia sa benissimo, noi sappiamo che dovremo lottare fino alla fine. Ci stanno grandi competitor in Italia. No, competitor no, Conte. Competitor no. A chi? Competitor no. Competitor a chi? Dai, comportati bene. Competitor. Tonino, lo, lo stesso Milan che nonostante sia tardato in classifica per una squadra che, che ha dei valori importanti. Ma è tristissimo, non sarà facile ripeterci. Ma sai che lui quando, quando becca una sconfitta ci mette due giorni. Io ero arrabbiato per per la sconfitta. Magari per per come è venuta la sconfitta. Oggi sono contento della prestazione, sia dal punto di vista fisico, da un punto di vista tattico, perché la partita abbiamo cercato di farla, abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol. Vabbè, insomma, il problema è sempre lo stesso. Insomma, attenzione, meno forse nessuna leggerezza. Adesso arriva Mauro. Partita... Dai, Mauro. Vai, Mauro. Sei tutti noi, dai. Mauro. Domanda ficcante. Eccolo. Sì, Antonio, no. Dai. Devo dire che condivido abbastanza la tua analisi, però ti posso chiedere come mai la Juve non fa il 2-0? Te l'ho appena detto, io, scusa, deve fare il secondo gol. Sì, io dico proprio non clamorosi, cioè non vedo quella necessaria cattiveria a creare azioni da gol in avanti, non la, ma la cattiveria diciamo... Stringe. Quello che ti dicevo anche contro la Samp, sintesi, cioè la voglia proprio di non soffrire. Perché non segna il secondo gol? Non so se, mi sembra così da lontano, poi magari se fossi allo stadio direi un'altra cosa, magari in televisione si vede così. Sai, contro la Sampdoria abbiamo anche sull'1 pari e sul 2-1 abbiamo avuto diverse occasioni. Mi ricordo quella di Vucinic, la traversa, mi ricordo il mancato tapino. Non risponde, non risponde. Oggi, perché non segni il secondo gol? Sull'1-0 potevamo sfruttare meglio alcune situazioni che si erano create da ultimo uomo. Una volta con Giovinco, un'altra volta con Vucinic, mi ha sbagliato l'ultimo passaggio. È stato bello, diciamo. Nel frattempo ricordiamo 824-0024 ora in questo momento, perché è quello che noi vorremmo anche sapere da voi, cari ascoltatori, la squadra che voi odiate. Pure possiamo, ci affianchiamo la seconda domanda, il rinforzino della seconda domanda. Campionato aperto o chiuso? No, ma guarda che secondo me non ci sta male messa lì così. Campionato aperto o chiuso? No, campionato aperto. Anche perché poi io stasera c'è Sampdoria Milan. C'hai la classifica? C'ho la classifica. Vai con la classifica allora. Classifica: 45 punti la Juventus, 42 la Lazio, 40 Napoli che ha 2 punti però di penalizzazione e non è detto che... Poi Inter 38, Fiorentina 35, Roma 32, Milan Udinese Parma 30, con il Milan una partita in meno, Catania 29, Chievo 24, Torino 23, Atalanta 22, Bologna 21, Sampdoria Pescara 20, Cagliari 19, e qua inizia la zona B. Sarà Genoa. Scusa, posso dire una cosa? No, niente, vai, finisci. Già. Genoa senti, 17, Palermo 15, Siena 11. No, volevo dire. L'abbiamo registrata questa puntata? Sì, sì. No, perché voglio sentirla in continuazione la tua voce. Non vorrei darti fastidio, però volevo capire un attimo dove è collocato Luca, perché è ancora in ritardo. Pronto, Luca? Eccoci! No, non urlare Luca, ci sentiamo benissimo. No, ma perché devo sovrastare la voce del navigatore che mi dice alla terza uscita uscire. Cioè, ho capito, tu stai andando, spieghiamo bene perché poi loro non ci credono. E tra l'altro ci hanno chiesto, scusate, ma quando inizia la trasmissione di sport nel nostro SMS, no? Cioè in questo passaggio. Allora, volevo sapere intanto da te la notizia, perché il prossimo servizio sarà sul... Beach volley. Beach volley, quindi ci siamo stancati del calcio. Noi stiamo andando ad assistere ad un torneo di beach volley indoor femminile alle porte di Milano, in uno degli impianti più sofisticati per questo tipo di sport. Tu sei perso nel nulla, diciamolo chiaramente, sei in ritardo sul pezzo. Sì, diciamo. Mi sono perso, infatti sono indeciso se fermarmi a questo roadhouse che è qui per mangiare un boccone. Ma probabilmente l'istinto di raggiungere lo sport femminile è più forte, seguirò. Sì, vabbè. Alla prossima. È un torneo, cioè, sono quei tornei dimostrativi? Cioè, dimostrativi. Cioè, sono tornei. Tua sorella ti risponderebbero le giocatrici. No, cioè. Nel senso che l'iscrizione. Cioè, conosco mia sorella? Lei ha giocato a beach? Sì, certo, tutti i giorni. Sì. No, bisogna essere regolarmente iscritti con tanto di divise, quindi comunque la partecipazione è ristretta a delle persone che sanno giocare. Sì, quindi vabbè, io adesso non vedo l'ora di raggiungere questi quindi è un torneo aperto, scusa, è un torneo aperto, ho capito bene, quindi in questo caso è un torneo aperto che però ha un suo regolamento, le iscrizioni si sono chiuse a tempo debito. Facciamo così, quindi, che sei avvantaggiato perché tra poco arriva il traffico, quindi hai tutto il tempo da arrivare lì. Tra l'altro, sentire se hai preso la strada giusta, no? Arrivare lì, andare dentro e cercare di capire perché sei andato lì, hai capito? E vedere anche il giro che c'è, insomma, cioè perché è veramente. Lo scoprirò soltanto alla fine perché sono andato lì. Per cui intanto non mi pongo domande e proseguo. Facci sapere. Ciao. Ciao, dopo. I due grandi sconfitti di oggi. E cioè? Cioè Montella e Zeman. Tutte e due in coppia? Sì. Guarda, proprio adesso che c'è il traffico, che peccato. È una cosa peccata. Tanto noi torniamo, sì. Cioè, no, perché tra un po' ce ne inizia la trasmissione di calcio. Anzi, di sport. Vabbè, inizia la trasmissione. Non è solo calcio, ma c'è Zeman proprio in questo momento che sta per parlare su Sky. Un problema nostro è mentalità, è di giocare da Roma, da una squadra che vuole competere, che vuole lottare. Ricordiamo il risultato. Sì, 1-0 perso col Catania, gol del Papu Gomez. Giochiamo calci diversi e paghiamo per questo. Cioè, dove sta camicia slacciata così? Che si potevano fare. Sono al bar. Che oggi avevamo tante possibilità di fare gol, purtroppo o per leggerezza o per non convinzione non l'abbiamo fatto e l'abbiamo pagato. Ilaria. Non è la prima volta che vediamo la Roma spegnersi dopo aver fatto un primo gol, dove è un primo tempo in cui ci sono tante occasioni non poi finalizzate. Mi volevo ricollegare a questo che stava dicendo Zeman. Buonasera Zeman. Ma esiste... Buonasera. Esiste un problema fuori delle partite in trasferta, dove comunque la squadra, è vero che avete creato occasioni a Napoli, ne avete create anche oggi, però per esempio quelle di oggi sono stati dei tiri da fuori area, la spinta del portiere, mi sembra che la squadra attacchi con un pochino meno convinzione rispetto a quello che riesce a fare quando gioca. Senti, posso fare una cosa? Io parlerei con... Aspetta, vediamo se dice qualcosa. A parte che respinta dal portiere, se ci siamo trovati due volte palla un metro dalla porta, su respinta, penso che... Dovete guardare la partita, cari ascoltatori. Nel frattempo, Riccardo, pronto? Sì? Come va? Presente. Tutto bene? Benissimo, piove a dirotto, ma va bene così. Dove? Dove piove a dirotto? Viareggio. Viareggio, vabbè, dai. Patria del pattinaggio a rotelle, dell'hockey a rotelle. Prego? Patria dell'hockey su pista, Viareggio, no? Te lo traduco io, patria dell'hockey su pista. No, perché è un po' così oggi. Confermo. La CGC Viareggio, vabbè. No, niente, così è, perché Luca, non è solo sport. Vuoi far vedere che c'è cultura generale, no, qua là, cioè, hai scaglie di cultura qua e là, buttate in maniera confusa nella tua mente. Cioè, vabbè. Riccardo, tu ci hai telefonato per dire delle cose brillantissime sull'800 24 0024, giusto? Niente affatto brillante. Ok, ciao. Dici. Vedo poco lo sport in televisione, perché ho praticato molto lo sport quando ero ragazzo. Sì. Moltissimo sport, quindi lo sport visto non mi attira più di quello praticato. Ecco, ci stai raccontando il tuo momento difficile, insomma, in questo caso. Assolutamente. E la squadra comunque che più odio, anche se il calcio mi interessa molto relativamente, è la Juventus, perché confermatemi, l'unica coppa di campioni che ha vinto è stata quella dello stadio di Zell, quando è successo ne ha vinte due, ma non volevo darti questa notizia, però magari è arrivata un po' tardi. Comunque è stato un comportamento per me estremamente antisportivo, perché in occasione di quadricentenari si sospendono le gare. Non è proprio così automatica la cosa, ma è un po' più complessa, anche perché in quel momento già ce n'erano abbastanza di problemi. Ne sono successe di cose nel frattempo. Cioè, comunque tu sei rimasto scioccato da quella partita. Sì, io diciamo mi è rimasto impressa in maniera indelebile. È un episodio che purtroppo stigmatizzo. Poi i fatti collaterali quelli vanno da sé, ma se fossi stato allo studio dei giocatori e lo studio dell'allenatore, io non avrei continuato. Però guarda, c'è una letteratura molto vasta su quella giornata, si parla persino di tentativi da parte della polizia di convincere di entrare in campo i giocatori che non volevano già più entrare in campo per motivi di ordine pubblico, anche perché avevano portato quattro amici al bar i poliziotti, cioè non era una finale di Champions Champions aveva portato pochissima sicurezza e quindi stavano facendo arrivare di nuovo reparti da tutte le parti. Scusate, il gioco mi è piaciuto questo. Bello, parti, reparti da tutte le parti. Ancora sì. Un po' le faccio un'altra. Sì, no, basta. In questo passaggio. E quindi è una serata un po'. Comunque, tu quella serata lì ti ha preso malissimo. Cioè, tu invece di prenderla con Liverpool, te la sei presa con la Juventus. Assolutamente. Ecco, perfetto, ho capito. Sono cose, Quindi sei rimasto triste anche tu. Comunque, per continuare brevissimamente il mio discorso da sessantenne, io gioco ancora calcetto a 5, ma non con dei coetanei sessantenni. Cioè, tu giochi con i giovani a calcetto a 5, nonostante tu abbia già 60 anni, giusto? Ho capito bene. Però hai un sacco di tempo libero se ti telefoni a noi. Ciao, grazie, è stato bello. E nel frattempo, ancora lì Zeman. Mamma mia, Zeman ha quasi finito. Tra un po' arriva Montella. Sì, tra un po' ha fatto svenire tutti. È una cosa. Ecco. Però posso dirti che c'è veramente questa cosa di tutte le. Tristezza. Strano, le musiche che ci sono di sottofondo dovrò cambiarla, cioè, mettere qualcosa di più soft da questo punto. Oh, Montella non lascerebbe, non glielo posso chiedere perché si conoscono troppo bene, non lo so. La Fiorentina è l'anti-Juventus. No. Scusa, altri problemi, altri problemi. Se 124-0024. Sicuramente De Rossi non l'avrebbe lasciato in panchina, perché con la panchina che c'aveva oggi, compresi i due portieri, erano in sette. Non ho mai visto una panchina così sguardata. Domanda, però, siamo tornati all'antica. Anche se qualche meno mese confusione, fa 18, dice. Esatto. Ecco, va bene. Sta più larghi a tavola pure. Va bene. Giorgio Bortolossi e poi le nostre domande da studio. Giorgio. Vai Giorgio. Sì, Ilaria, parlavi di Giorgia. Quando insomma abbiamo inquadrato Vincenzo Montella, ma più che deluso oggi a fine partita era molto arrabbiato. C'entrano forse alcuni episodi su cui avete protestato? Perso 3-1. No, su questo era arrabbiato un po' verso Guidolino, ma poi ci siamo chiariti perché ha avuto modo a 10 minuti alla fine, un quarto d'ora alla fine, di sindacare su un eventuale calcio d'angolo non dato all'Udinese. Francamente, dopo quello che avevo visto in campo, mi sembrava un po' troppo che protestare, perché non l'abbiamo fatto, non lo facciamo mai a livello vistoso, però l'abbiamo chiarito alla fine, non c'è nessun tipo di problema. Insomma, io gli episodi arbitrali non li commento in campo, così come non li commento davanti alla televisione. Vabbè, tutto qui. C'è una scena che fa vedere anche nella posizione, forse le rivediamo insieme. Che scena? Raccontala. La scena con Guidolin e Montella che parlano al centrocampo. Guidolin lo guarda come un matto, cioè sta guardando Montella come dice: ma questo da dove è arrivato? Da Marte, paracadutato. Lo guardava con gli occhi di uno che sta parlando con un matto. Vabbè. C'è il tocco di Pereira, mi sembra sia il giocatore ludinese, la posizione di Domizzi è... Ricordiamo il risultato intanto, perché così è... Ludinese 3, Fiorentina 1, il gol è in realtà il primo, è un'autorete di Berkic per la Fiorentina, poi doppietta di Di Natale, uno su rigore Muriel. Sulla prima immagine, sì. Poi c'è questo... Ecco, che è successo? È successo che Aquilani ha fatto un buco di fianco al dischetto del rigore prima che Di Natale tirasse il rigore. Il problema è che Di Natale se n'è accorto. Sì, cioè è arrivato, l'ha fatto davanti. Cioè, Di Natale era proprio lì davanti. Aquilani è arrivato lì vicino e ha scavato. Ha fatto lo scavetto. Che tanta gioia ha dato alla squadra del Torino, no? Mi pare. No? Cioè, sì, esatto. Salas, mi pare, ha tirato per il cielo. Cioè, il giocatore della Juve, sono andati lì, hanno fatto uno scavetto di nascosto e Salas ha tirato una cannonata ma che verso il cielo in orbita sì. E quindi Aquilani che sportivamente è andato lì e ha proposto questo evento, insomma, da questo punto di vista. Il problema è che Di Natale era dietro di lui, l'ha visto, gli ha tirato uno spintone, ha detto: ma che cavolo stai combinando? Esatto. 3-1 per la Ludinese sulla Fiorentina. Ecco, vabbè, sentiamo questa occasione, che succede, come chi giocherà la prossima partita? Uno dei due sicuramente. Uno o l'altro. Sono visto. Dai, su, stringi. Che capitano, insomma. No, ma hanno dimostrato, al di là di questi errori, di essere due ottimi portieri, quindi sono situazioni che capitano, insomma. Oh, ragazzi, è veramente amplificare le risposte è veramente una cosa incredibile. Stanno parlando degli errori di Neto, soprattutto, che ha fatto un errore su una parata di malavoglia. Il problema è che dice che ti arrivava la palla, la stoppavi di petto e poi la volevi giocare di piede. il portiere un po' strano. Sì, iniziato in porto, fortunatamente non ero alto e fortunatamente un giorno la mia squadra non riusciva a segnare e... Vabbè, adesso si parla anche dei ricordi. C'è la partita di oggi dove la Fiorentina ha preso ben tre pappine dal pappine tecnico. Sì, pappine tecnico, troppo, molto troppo, tecnico, un po' molto troppo tecnico. Forse magari da questo punto di vista. No, ecco, tre pappine dall'Udinese passano così inosservate come se non fudesse. Tra l'altro Montella non se la prende neanche tanto. Beh, no, sembra tutto sommato anche... quando perdi due partite su due, perché prendersela? Ecco. Vabbè, allora ricordiamo intanto che cosa accadrà tra poco, nel senso che tra poco ovviamente noi andremo avanti con la nostra trasmissione con Maresca, ricordiamolo, sì, esatto. Perché apriremo questa nostra rubrica che restando a casa. Esatto. Restando a casa, questo non so se avete capito, cioè quelli che sono rotti, quelli che sono fatti male, quelli che insomma sono infortunati, quindi non giocano la partita, cosa fanno, cosa combinano? Esatto. E esatto. Avremo Maresca. Forse. No, ce l'abbiamo di sicuro, assolutamente, da questo punto di vista. Fra pochi istanti ci sarà il giornale radio e poi Maresca a seguire all'interno di Dai Vai. No, tra l'altro anche Luca Cancellà deve essere arrivato lì al, è arrivato? Sì, ah, alla fiera lì di quella roba lì, no? Insomma, esatto. Quella cosa terribile che c'è da quelle parti. Beach volley, che noi seguiremo anche quello, cari ascoltatori, noi ricordiamo che questa è Dai e Vai, e mi raccomando, ricordatevi 824 0024, che non me lo ricordo io, ricordatelo almeno voi. Sì, noi parlavamo di squadre più o meno antipatiche, nel senso che ognuno di noi ha la squadra antipatica, poi ci sono quelli che ovviamente esagerano, e quindi diamo anche la notizia che ci sono stati dei tafferugli fuori dallo stadio prima e dopo. Prima ce la sono presa con un bar, esatto, no? Prima stiamo parlando di Parma-Juventus, tafferugli con alcuni tifosi, se non ho capito male, della Juventus. Sì, esatto. Juventus, prima con un e bar. Dopo la partita con, sì, un bar. Sì, con un bar, ritrovo tra l'altro dei tifosi, sì, del non bar. Non è che tutti i bar possono stare simpatici, voglio dire, c'è, esatto, qualche bar che è distante. Sì, esatto, però anche dopo poi ci sono stati altri scontri. Vabbè, insomma, comunque c'è agitazione a Parma. Tra l'altro il pareggio non ha sicuramente, come dire, intiepidito gli animi. No, è vero. Però è strano perché poi a Parma è tutta, esatto, la tifoseria un po' così tiepida, tra l'altro, insomma, no? Non particolarmente. Lo stadio di Parma è proprio in mezzo alla città, cioè in mezzo alle case, certo, quindi... Certo. Non è in periferia. Allora, lui è diventato un idolo delle folle, delle folle bianconere in questo caso, ma poi dopo ha cambiato tantissime altre squadre, no? Voglio dire, è andato avanti. Sì, è andato al Piacenza, è tornato alla Juve, poi alla Fiorentina, poi a Siviglia, poi è andato in Grecia, all'Olympiakos, poi ha capito che non tirava aria buona ed è andato via dalla Grecia prima che la situazione crollasse in Grecia. Ecco. E quindi è andato a giocare nel Malaga e adesso è alla Sampdoria. Ecco, tanto per capire, stiamo parlando con il centrocampista della Sampdoria, Enzo Maresca, che abbiamo qui al telefono. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Come va? Tutto bene? Bene, grazie. Bene, no, bene. Ecco, lei ha un compito in particolare, nel senso che stiamo iniziando questa nuova rubrica dedicata ovviamente restando a casa, perché lei oggi è a casa, diciamolo, no? Esatto, sì, purtroppo sì. Che è successo? Ma no, niente, ho avuto un infortunio muscolare 2 settimane fa e quindi sono in fase di recupero. Vabbè. Come tempi di recupero, perché i tifosi sampdoriani vogliono sapere quando rientra Maresca ad articolare il gioco del centrocampo blu cerchiato. Ma i tempi di recupero dovrebbero essere ancora un paio di settimane, quindi spero la prossima no, ma l'altra ancora sì. La prossima siamo a Siena e poi siamo in casa con il Pescara, quindi spero di essere di nuovo presente con il Pescara. Ecco, come si articola la giornata calcistica di un giocatore che è a casa per un infortunio, che quindi non può seguire i compagni di squadra? Ma diciamo che la maggior parte delle squadre, quando c'è un infortunato, diciamo ha più o meno gli stessi orari della squadra. In più diciamo che fa le terapie e la fase di recupero anche al mattino, quindi se l'allenamento è al pomeriggio, l'infortunato va sia al mattino che al pomeriggio, quindi diciamo che quando sei infortunato è peggio, non puoi giocare, e purtroppo sì, è anche peggio da un punto di vista, si lavora di più, certo. Ma personalmente faccio una cosa che mi piace, una cosa che ho sempre voluto fare, quindi comunque voglio dire, anche se sì è un lavoro, però comunque è un piacere andare al campo e fare il lavoro che faccio. Vabbè, che partita ha visto oggi? Possiamo darci del tu, Enzo? Sì, no, datemi del tu, perché io sono giovanissimo. Beh, insomma, adesso non ne parliamo, ero giovanissimo io quando facevi le corna, voglio dire. Cioè, no, giovanissimo da un punto di vista, no, no, dal punto di vista dell'età, poi da un punto di vista calcistico oramai sono Ah, ecco, ecco, ecco, no, no, perché insomma, cioè, tu rimani, come sai, no, cioè, per molti rimani nei cuori di grandi, di tanti juventini per quel momento, no, epico, no, che tu hai vissuto in quel derby in cui hai fatto le corna. Sì, diciamo che quell'anno là è coinciso anche con la vittoria dello scudetto. Esatto. Però c'era stata quella soddisfazione lì, quel momento. Cioè, geniale, devo dire. Vabbè, tornando a noi, che cosa hai visto oggi? Ho visto diretta gol. Ho visto, devo dire la verità, ho visto calcio inglese, quindi Manchester-Liverpool. Uh-huh. E poi dopo ho visto un po' di diretta gol. Quindi Manchester-Liverpool partitona, cioè è stato uno spettacolo di partita. Sì, io sono un amante del calcio inglese, spagnolo, voglio dire, quindi era una grande partita. Tra l'altro ho appena visto anche il primo tempo di Arsenal-Manchester City, che purtroppo è una partita già finita, 0-2 l'Arsenal, non meno. Quindi... Manchester-Liverpool, ricordiamo, 2-1 con gol di Van Persie e Vidic e poi Sturridge per quanto riguarda il Liverpool. Vabbè. Esatto. Sono cose... No, però voglio dire, tu oggi ti sei passato tutto il pomeriggio attaccato al televisore, in questo caso? No, io stamattina ho fatto diciamo le terapie, sono rientrato a casa, ho pranzato a casa e poi sì, stavo riposando guardando la televisione, non mi nascondo che tra una partita e l'altro mi sono anche addormentato. No, no, no. Vergogna. No. Hai fatto la pennica? Cioè, è stata una pennica? Ho fatto la famosa siesta, vabbè, ecco, insomma, questo passaggio. Tu, Enzo, hai diciamo, formato la tua carriera soprattutto in Spagna e sei ancora legato molto alla Spagna, tanto per dire, su Twitter, che è un social network, molto spesso i messaggi li scrivi sia in italiano che in spagnolo. Sì, diciamo che in Spagna sono legato alla Spagna perché la Spagna è un paese che mi ha dato tanto, tantissimo, sia da un punto di vista della vita personale, ma soprattutto da un punto di vista calcistico, perché ho avuto la fortuna di vincere 7 titoli che devo dire la verità, sono orgoglioso e quindi non mi resta che ringraziare la Spagna e i tifosi spagnoli che mi seguono. Ecco, c'hai anche un'intonazione della voce un po' spagnola, eh? Te l'ha mai detto nessuno? Perché sì, io ho la mia compagna che è spagnola, quindi io intanto parlo spagnolo. Parli spagnolo. Ah, okay. Okay. Già questo, insomma, già la novità. No, voglio dire, ma adesso la cosa è, ma con gli altri giocatori, cioè quando uno si fa male, con gli altri giocatori, come butta? E tra l'altro la cosa più interessante è che ogni tanto ci sono altri giocatori che non sono neanche della squadra, ma sono giocatori che uno si trascina, si porta dietro nel corso della propria carriera. Tu hai degli amici, che sono giocatori ovviamente, con cui hai giocato, che ti tieni in contatto. Cioè, se arrivasse uno, quando sei dovuto andare alla Sampdoria, a chi hai telefonato per primo? Ma devo dire la verità, vabbè, nel caso specifico della Sampdoria, l'allenatore di quel periodo era Ciro Ferrara, che era stato compagno mio di squadra. Facile, quindi, fin troppo facile, è lì. Voglio dire, c'era stato un contatto con l'allenatore, però sì, sicuramente in questi anni, grazie al calcio, ho anche conosciuto delle persone meravigliose, sia in Spagna, sia, voglio dire, in Italia, quindi contatti con giocatori ne ho e devo dire che ad oggi ne ho anche tanti. Ma dicene almeno un paio. Ma l'ultimo, voglio dire, per esempio l'anno scorso, che sono stato un anno e mezzo a Malaga, ho creato un'amicizia con De Michelis Martino, un ragazzo argentino, quello che giocava nel Bayern. Nel Bayern di Monaco, sì. Esatto, adesso lì a Malaga. Mm. Questo è stato, diciamo, l'ultimo amicizia, ecco, nata grazie al calcio. No, ma per esempio... Sampdoria batte la Juventus. Con chi hai commentato? Con chi è stato il primo con cui hai commentato questa vittoria della Sampdoria? Ma devo dire la verità. Eri da solo? Stavi facendo la siesta anche lì? No, No, ero sul divano che stavo guardando la partita. Devo dire che quando abbiamo fatto il 2-1 ero in compagnia della mia compagna che si voleva alzare per andare a bere. Devo dire che gli ho detto non ti muovere perché non si sa mai che ti muovi e fanno gol gli altri, quindi... Per la superstizione. Devo dire che quando è finita la partita, no, ma non so, sembra strano, ma io non sono uno superstizioso. Però è vero che se stai guardando una partita e stai perdendo 1-0, poi riesci a ribaltarla al Torino e mancano 10 minuti. È meglio tenere tutto fermo, tenere tutte le bocce ferme. Sì, non si sternuta, non si fa niente, non si beve. Niente, non si può neanche bere. Sì, ecco, quindi scaramantico a mille, insomma, in qualche modo. Devo dire che non sono, però in alcune cose sì. Tipo questa, in questo caso qua. Questa, senti, fra qualche ora c'è Milan-Sampdoria. Tu hai scambiato qualche messaggio, qualche tweet con i tuoi compagni di squadra? Perché sappiamo che ad esempio Obiang, Icardi sono persone che twittano abbastanza, anche Costa. Sì, no, con Twitter no. Sicuramente stamattina che li ho visti, perché loro hanno fatto rifinitura con quasi tutti della squadra. Voglio dire, ho cercato di dare il mio contributo, anche se in questo momento sono fuori, e quindi cercare di dire più che altro qualche parola di conforto, e che comunque... Beh, di conforto, aspetta che perda, non per dire di conforto, cioè... Come, scusami? No, dico, di solito le parole di conforto si danno quando uno ha perso, aspettiamo. No, sì, esatto, no, volevo dire di incoraggiamento. Di incoraggiamento, comunque, esatto. Si può fare risultato anche stasera, senza dubbio. Senti, stasera la vedi su quella che si paga terrestre o quella che si paga satellitare? No, stasera la vedo al campo. Ah, vai direttamente allo stadio. Ecco, vabbè, allora stai già bene, vabbè, dai. Enzo, grazie. Enzo Maresca qui a Dai Vai, grazie, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Dai vai Radio 24, attenzione perché io sono annichilito dalle interviste, dalla lentezza di queste interviste. Diamoci una mossa, è successo di tutto oggi in campo, soprattutto a Roma, tra le altre cose, perché a Roma è successo che la Lazio... stato un fallo di mano di Floccari che ha stoppato il pallone con la mano, poi ha segnato, quindi grandi polemiche da parte dell'Atalanta per questo gol dell'1-0, poi la partita è finita 2-0. Posso dirti una cosa? Stai peggiorando con la voce, te lo dico, no? Perché lo so. Magari poi qualcuno dice: ah, ma poverino, che cos'è che ha? Niente, diciamo un po' non va bene, insomma. Hai preso altre acciughe? Sì, no? Ho preso tutto. Perché mi hanno detto le acciughe vanno benissimo da questo punto di vista. Luca Cancellara, dove sei? Pronto? Eccoci, finalmente sono riuscito a superare tutte le rotonde che avevo davanti e ho raggiunto il beach volley Marconi di Segrate alle porte di Milano per godermi le fasi finali del torneo di beach volley indoor femminile di Casa Winter Circuit. Io sono entrato Spavaldo qui nella tendo struttura, ho detto vado a intervistare... Cioè, vedendo la radiocronaca, entro Spavaldo, no? In questo passaggio. Però Diego mi ha fermato subito e mi ha detto dove credi di andare? Mi ha fermato qui, esattamente sulla panchina della prima squadra semifinalista, e sta lavorando ai miei piedi. Cosa stai facendo in particolare, Diego? Allora, tu devi sapere che sulla sabbia non si può andare con le scarpe. Qui noi giochiamo tutti i giorni e dobbiamo assolutamente tenere la sabbia pulita. Quindi adesso ti sto mettendo dei sacchetti di carta per proteggere e rendere lasciar sì che la sabbia rimanga pulita per i nostri giocatori. Certo. Quindi ho praticamente dal ginocchio in giù ho le gambe completamente avvolte da dei sacchetti immensi che mi permetteranno di camminare su questa sabbia che è addirittura stata portata dal Portogallo per permettere a queste giocatrici di esprimersi al meglio. Luca, io qui aspetta un secondo. Daniela. Luca, sta fermo un attimo. Aspetta un secondo perché c'è Pasquale Marino e Pierpaolo Marino, il direttore sportivo dell'Atalanta, sulle polemiche di oggi a Roma. Avversario di oggi, nel senso l'allenatore suo avversario, perché è venuto ai nostri microfoni e ha detto assolutamente, rivedendo le immagini, è chiarissimo. Marino, è stata una fortuna per noi. Ma lei deve prendere il filmato e far vedere che, volontario o no, il pallone si ferma lì e Floccari fa gol perché tocca la palla con la mano. Quindi è questo che deve dire a Braschi e al guardalino e all'arbitro. No, ma io a Braschi non ho niente da dire, io lo dico a Peruzzo, perché Braschi sta lavorando molto bene insieme a Nicchi e c'è un gruppo di arbitri di cui noi non possiamo lamentarci. Però ogni volta che viene Peruzzo c'è un'interpretazione a danno nostro di questo fallo di mano in aria degli avversari, perché su tre volte che è venuto è successo due volte, Marino, noi ci rimettiamo i punti. Marino, io credo, ma non avendo la possibilità di far sentire la voce di Peruzzo, perché lei sa qual è il regolamento, l'abbiamo raccolta la sua dichiarazione. No, ci fermiamo no, qua. No. Ma io sto facendo un giudizio tecnico come lo fate voi. Avrò diritto a un giudizio tecnico certo, dopo 35 anni di calcio. Vabbè, anche dopo 12, non è che bisogna aspettare 35 anni per fare un giudizio tecnico, non è che è una cosa. Vengo soltanto ad evidenziare che un arbitro polemica. Sta interpretando in maniera molto particolare i regolamenti da un anno a questa parte. Ma contro di io quando lo avrò di nuovo gli dovrò chiedere. Va bene Marino, la ringrazio. Cioè non ho capito, la polemica è contro chi? Contro l'arbitro Peruzzo di Schio. Ecco, appunto, perché dice che quando abbiamo l'arbitro Peruzzo di Schio è lui proprio quello che crea problemi. Esatto, da diciamo punto di il vista. Regolamento viene interpretato in modo un po' anomalo nei loro confronti. Questo era Pierpaolo Marino, responsabile dell'area tecnica dell'Atalanta. Vabbè, allora Luca, questo è cancellare, andiamo da cancellare. Oh, finalmente allora, una voce soave. Ci senti? Sì, sì, grazie. Ecco. Sì, io vi sento benissimo. Bene. Allora, dicevi... Nel frattempo mi hanno messo dei sacchetti ai piedi come vi avevo preannunciato prima, per cui posso camminare tranquillamente sul campo riscaldato, tra l'altro, di questa splendida sabbia portoghese. Sono qui con le due coppie che fra mezz'oretta si sfideranno per la finale. Valentina e Daniela, benvenute, intanto complimenti. Mi hanno detto, Valentina, che tu sei una maestra del crossover. Anche se non so che cosa sia, tanto mi confermi ciò? Ti confermo. Che cos'è il crossover? Allora, è un particolare colpo del beach che sarebbe la diagonale lunga a scavalcare. Ah, beh, certo. Non so se avete capito adesso con questa spiegazione. È tutta un'altra cosa, no? Guarda. È chiarissimo. Io lo faccio nel tennis. Io giocando a bocce faccio a volte il crossover. E vedo che gli sguardi di Giulia e Alice, che sono le sfidanti, si sono illuminati sapendo che Valentina è maestra di crossover. Tu sei tra le due? Alice. E Alice, tu sei maestra di quale colpo spettacolare del beach volley? La nocca. No, ma la nocca è troppo facile. Cioè, ragazzi, voi sapete come ha si detto, scusa, sto, di bene, di bene, perché non abbiamo ben capito. Da? La nocca. Che è praticamente il colpo di pugno, cioè arriva la palla, la butti dall'altra parte con un pugno. Insomma. Esattamente. Facile, no? Cioè, questa... sta annuendosi. Mentre Giulia invece tu sei maestra risaputo di quale colpo? Il colpo ignorante. Colpo ignorante. Non so se mi sta prendendo in giro o no, lo sguardo era serissimo, cosa? Però lui... Noi ci crediamo. Nel frattempo, no, ma che cos'è il colpo ignorante? Scusa, il colpo ignorante è? Dicasi, colpo ignorante, che cosa? Probabilmente era riferito a me, cioè mi stava offendendo, probabilmente. Ah, ecco. Se ci fosse una telecamera qui, riprenderebbe la mia mossa in quanto impacciate per attraversare tutto il campo con questi sacchetti alla ricerca di un bel ragazzo. Eccolo qui, ciao, tu ti chiami? Sergio. Sono il papà di Giulia. Ah no, Sergio è il papà di Giulia. Niente, dobbiamo cercare un altro ometto che è venuto qui ad assistere a questa vincente il padre partite. Di Giulia ha visto Luca eccolo, e si è avvicinato. Ce l'ho qui. Ecco. Scusami, ciao, tu ti chiami? Massimo Duva. Massimo, spiegaci una cosa. Aggressivo. Siamo in diretta radiofonica, non guardarmi in questa maniera, tranquillo. Perché il 13 gennaio un uomo dovrebbe chiudersi in una tendostruttura e assistere a una partita di beach volley? No. Beach volley femminile. Femminile, certo. Ovviamente è un aggettivo che non dobbiamo dimenticarci. Perché? Devo dire perché, devo aspettare la mezzanotte o posso dire perché adesso? No, dicelo subito, perché? Tanto gnocca. Avete capito? Devo questa è veramente, veramente, guarda, ci mancava anche questo aspetto, voglio dire. Cioè, quindi, nella sostanza, quanto pubblico c'è in questo momento lì? Allora, in questo momento il pubblico è tutto al bar, perché si sono appena concluse le due semifinali, per cui le atlete stanno facendo stretching in preparazione della finale. Il pubblico è andato a prendere una boccata d'aria e probabilmente poi però ritornerà a riempire il palazzetto, la struttura in cui in questo momento ci sono una sessantina di persone. Resta lì perché farai ancora i nostri occhi. Nel frattempo andiamo a sentire Del Neri che ci parla della sua bella squadretta del Genoa, che ha perso anche oggi 2-1. Io giocatori in campo. Ecco, niente, non voleva più parlare, basta, ha deciso di non parlare. Ragazzi, c'è Lotito, adesso si ride. C'è il momento in cui ovviamente c'è lo show di Lotito che tutti aspettano da tempo, anche loro tra l'altro. Voglio dire. No, perché adesso difenderà il fatto che il fallo di mano non era fallo di mano. Ecco, noi però tra un po' dobbiamo andare in pubblicità, ma non subito, nel frattempo tentiamo ancora la sortita, vediamo di che cosa dice Lotito. Prima del countdown io voglio... voglio salutare il presidente. Sì, Vito, ok, presidente, anche lui, anche loro c'hanno il campionato, meno 3 dalla Juventus, presidente. Buonasera. Cos'è sto applauso tirato dal tecnico laziale dello studio? Facciamolo anche noi, dai. È ovvio, cioè il tecnico. No, io non voglio applaudire, quello è il tecnico laziale dello studio che ha applaudito. Con molta dignità, con molta umiltà. Fa modesto. Con molto spirito di coesione e con spirito di sacrificio, sì. Senza mai sottovalutare gli avversari, certo. Questo è il nostro motto, sì. Pro Lazio, non anti nessuno, ah, ecco. Ma che polemica questa, simpatia a tutti, sacrificio sembrava tutti. Crozza quando fa Napolitano, esatto, fa molto ridere. No, non ho avuto il piacere di non vederlo. Ha visto, va bene, molto divertente. Peccato. Allora, le volevo dire questo, presidente. Gianluca Di Marzio ci ha raccontato che lei ha, ecco, non riusciremo a far sentire tutta la domanda, forse la risposta. No, perché andiamo via. E quindi, Virginia, adesso che se non si sbrigano, ufficialmente i secondi a una lunghezza, insomma, dalla vetta si concretizza. L'importante è che sia senza l'osso, perché se si può pure, uno si può pure stare di traverso. Ok, mi hai convinto. Ok, lo dice qualcosa. Ma l'ha individuata lei la ciliegina? No, hai capito, la ciliegina senza l'osso. Era sulle spinte mediatiche, dice, ma la Lazio deve comprare, se compra chi dice un attaccante, chi dice il centrocampista, posso dirti chi dice una cosa? Vabbè, insomma, la fine ci vedrà che poi ecco, tutte no, le persone sempre degli altri, no, oltre le metafore di Lotito, oltre un tot non riesco a seguirle. (800) 24 0024 con le vostre telefonate, date a noi la possibilità di non sentire Luca Cancellara, che è lì al beach volley in questo momento. Pronto, Luca? Sì, sono sempre qui al centro beach volley Marconi di Segrate alle porte di Milano per assistere alla, direi, finale del Mikasa Winter Circuit, questo torneo di beach volley femminile indoor. Ci eravamo lasciati sui colpi di nocche, colpi ignoranti. In particolare mi sto avvicinando al tavolo dei giudici e sì. Chiedo a te, che ti chiami Cesare Capetti. Cesare, una delle quattro semifinaliste mi ha detto di essere campionessa in colpo ignorante. Mi puoi spiegare tecnicamente nella beach volley che cosa sia il colpo ignorante? Il colpo ignorante è un colpo che esce casualmente dalle mani di una giocatrice, porta a beneficio, nel senso porta al punto, ma non è contemplato nella casistica dei fondamentali del beach volley. Quindi io che sono manchevole dei fondamentali del beach volley potrei essere in grado di fare il colpo ignorante. Tutti scuotono la testa in sincro, quindi questa cosa mi dà la certezza. Possiamo che tradurla, anch'io potrei essere. Possiamo tradurla in botta di culo, cioè per essere, esatto, essere più sì, tecnico, dicono, in questo caso nel beach volley, tra l'altro. Tutti confermano, sì, tutti confermano che la botta di culo di cui è maestra Giulia potrebbe portarle alla vittoria del torneo. Ecco, l'ultima battuta, se mi permettete, con Diego, che è un po' l'organizzatore e il gestore del tutto, perché una domanda per chiudere la cosa. Perché il 13 gennaio, cos'è che ti spinge il 13 gennaio a Milano in una domenica piovosa ad organizzare un torneo di beach volley? A parte le questioni di nocche e di gnocche di cui abbiamo già capito. Ah, sicuramente è una cosa da provare, però per entrare in una tensa struttura, trovare della sabbia bianca tipo Maldive e appoggiare i piedi e capire che è riscaldata fa trasporta in un altro punto del mondo, è una cosa che è da provare. Ecco, avete capito, cioè io qui scusa Luca, io mi sto facendo le vacanze. Luca, diciamolo chiaramente, sì. Cioè la sabbia del beach volley è calda, quindi questo è uno degli elementi principali per cui per venire lì, tra l'altro stasera, perché, anzi adesso, no? Tra poco inizierà, no? Assolutamente, noi vi aspettiamo qui perché tra poco andrà in scena la finale. Io tra l'altro potrò mettere fra pochi minuti in Facebook una foto per farvi capire qual è la differenza tra i miei piedi e quelle delle quattro semifinaliste. Quindi sulla pagina fans di Dai Dai Vai di Radio 24 ovviamente ci sarà la foto del... Esatto, per la farvi foto. Capire con quanta fatica io sto attraversando questi campi. Immagino che la foto sia la foto della sabbia, tra l'altro, no? Cioè che tu stai inquadrando in questo momento. Ecco. Però il clima da Miss Sex non è uscito fuori. Cioè, loro sanno di essere delle bombe sexy, le atlete. Allora, sono consce del loro ruolo dal punto di vista di immagine. È una cosa che ho chiesto loro, perché prima intervistando e parlando con il pubblico maschile, insomma, ci hanno fatto capire che gli interessi erano più estetici che tecnici. Per rispondere a questo, le giocatrici si sono invece coperte completamente. Io sono entrato nell'impianto pensando di trovare insomma una situazione brasiliana, e invece era tutt'altro che questo. Coperte fino alle caviglie con dei fuso neri, per non parlare della parte superiore, con delle maglie che ovviamente lasciano scoperte soltanto. Però oggettivamente deve essere molto gratificante, voglio dire, a parte se giochi bene o male, no? Cioè, voglio dire, tu anche dici, a parte qualcosa, qualcosa apprezza il pubblico. Se, no, ma a parte questo, non cioè, voglio dire, cioè, a fare l'atleta lì del beach volley, cioè, avrà delle gratificazioni da questo punto di vista. Non so se voglio aprire un dibattito su questo aspetto, su tutte le atlete con tutte le atlete del beach volley, forse sì, però mi sembrava che comunque ci avesse anche di questi altri aspetti. Senti, Luca, ecco, loro faranno la finale, tu torni qui, no? Se volete io posso anche cioè non è che mi trovo malissimo sopra la sabbia calda, certo, portoghese, certo, con un mojito sì, in mano, certo. Poi vediamo, magari ci sentiamo tra poco, ci aggiorniamo. Senti, certo. Luca, sì, quando dai, torni qua, un colpo ignorante, un colpo di nocca, sì. Capire se preferisco loro o voi. Ci aiuti però anche nel dire che questa sera noi torniamo alle 22, quindi tu dovresti anche dovresti essere qui, insomma, ecco, sì, cioè, vabbè, è quello, mentre torni, sforzo, e per le 22 sarò lì da voi. Mentre torni indietro, porta delle alici, va, che servono qua. Ecco. Ah no, le alici per la tua voce, Sì, sento che la voce di Luca sta drammaticamente peggiorando, per cui io non posso far altro che tornare alle 22 e riprendere il mio posto lì. C'è anche qualcuno che la vede come un lato positivo, no? questo aspetto, però non noi, che abbiamo qui Luca e ovviamente ci aiuterà ad andare avanti in questa trasmissione. Ciao, intanto ci salutiamo proprio ora, in questo momento, ci sentiamo tra poco. A dopo. No, non fate i furbi, non fate ovviamente, non dite delle cose inutili, soprattutto non scrivete su Facebook cose non vere, vi ho chiamato e cade subito la linea, è impossibile. Qui a Radio 24 non cade mai la linea, in particolare a 824 0024 a Dai Vai la linea è proprio lì, controllata a vista, non potrà mai cadere in questo caso. Ricordiamo che stiamo parlando delle squadre odiate, cioè il marchigio che c'è in voi. Qual è il marchigio? Intanto sono detto che la squadra è antipatica. Il marchigio che c'è in voi che indica quale squadra antipatica e soprattutto perché. No, poi ci sono delle cose assolutamente minori, non tanto le grandi squadre. Cioè, quella squadra che mi sta veramente antipatica perché quella volta, perché lui mi ha rubato la fidanzata e ti fava per quella squadra, hai capito? No? È imponderabile, non è chiaro il motivo per cui una squadra diventa antipatica. No, quella lì mi sta antipatica perché lui giocava in quella squadra e poi me l'ha mollato e niente, quindi io ho mollato quella squadra, mi sta antipatica, basta, insomma, ecco. Comunque, ricordatevi 800 24 00 24. Secondo te dice per chi tifa? Lo dice? Secondo me no. Dai, no, non lo dice. No, sai, chiedilo così diretto, esatto. Buonasera. Ecco, vai. Luca Pancalli, il presidente del Comitato Paralimpico, scusi per la voce, lei per chi tifa? Buonasera, io per la verità non ho una passione particolare, l'ho sempre dichiarato. C'ho mio figlio che è un interista, famiglia in parte romanista, insomma, ma io non ho un team a squadra del cuore. Vabbè, niente, proprio. Ma lo stadio non sono mai riuscito. Ma come mai? Come fa? È quello che è proprio interessante. Sono quelle cose ma in cui. So. c'è un aspetto, è come il 13 nella schedina, è difficile fare il 13, ma è difficile anche fare lo 0, no? In questo caso, come mai non c'è una squadra da tifare? Ma devo dire che non, ma sin da piccolo non sono, ma anche insomma, normalmente a scuola uno ce l'ha una squadra, no? Anche all'epoca delle figurine, insomma, sì, mi ricordo. Sì. Non sono mai riuscito ad appassionarmi, e forse è il modo migliore per non perdere, per non soffrire lunedì mattina. Però faceva la raccolta delle figurine. Sì, sì, quello. Ma la faceva? Non sono mai riuscito a finire un album. Confesso che il primo album che ho finito è qua all'epoca che ero commissario della Federcalcio, che grazie alla Panini sono riuscito a finire un album. Cioè, gli hai dato tutte le figurine, facile. Esattamente. È un trucco quello, non è facile quello della Panini. Alla soglia dei 49 anni un album sì. Lo dovevo riuscire. Sì, anche perché era un po' imbarazzante adesso andare lì a prendere le figurine dal tabaccaio, quelle cose. Vabbè, un po' c'ho mio figlio, potevo mio figlio. Vabbè, insomma, comunque sono cose che ecco. Comunque lei aveva anche lei il cielo ce lo manca, no? Cioè le figurine, vabbè, chi è che non ce l'ha, no? Ecco. Luca Pancalli lo abbiamo al telefono perché con Giacomo Crosa ha pubblicato un libro che si chiama Lo specchio di Luca. La cosa interessante di questo libro è che malgrado sia sostanzialmente la storia della sua vita, è definito un romanzo, quindi non è un saggio in cui... ma un romanzo, perché è un romanzo? Ma è un romanzo perché non abbiamo voluto, e sin dall'inizio Giacomo ha, diciamo, si è impuntato su questa cosa, ma da me poi sostanzialmente condivisa, non abbiamo voluto che divenisse la sterile autobiografia, ma che potesse essere ovviamente attraverso una narrazione sul modello del romanzo la storia di una vita. In fondo la storia della vita di ciascuno di noi può essere un romanzo, il modo, ovviamente la modalità narrativa l'ha resa questa. C'è un episodio in apertura del libro, ricordiamo che lei è in carrozzina da quando aveva 17 anni a causa di un incidente su un cavallo in Austria. E c'è questo episodio di Condor, che è il nome di questo cavallo. Ci racconti questa scelta del cavallo, che è particolare? Beh, questa peraltro c'ho pure una per la verità mia madre, una foto che ritrae proprio l'attimo nel quale estraggo il cavallo. Passa indietro nel pentathlon moderno, i cavalli nella prova di equitazione sono a sorteggio poco prima della gara. Erano state messe tutte palline all'interno di una coppa, ciascuna con un numero abbinato a un cavallo. Io ero rimasto l'ultimo a dover sorteggiare, metto la mano in questa coppa dove erano rimaste due palline, prendo la pallina, poi non so per quale motivo la lascio cadere, prendo l'altra e mi capita questo Condor, che peraltro era un cavallo che aveva già dato segni di visibile esagitazione nella manche della mattinata, e poi è successo quello che è successo. Certo, quell'atto lì, quel gesto lì, chissà quante volte l'avrà ripensato poi in seguito, immagino, no? Devo dire che è costantemente presente nella mia testa, perché poi ci rendiamo conto che le nostre vite sono fatte un po' come sliding doors, no? da coincidenze, da attimi che ti possono cambiare, ti possono mandare da una parte o dall'altra. Da gesti minimali anche, no? In questo caso. Assolutamente, proprio. Assolutamente. E inspiegabili più delle volte, no? Cioè, non è difficile stare la spiegazione. Lui una spiegazione però in questo rapporto gli ha data. Con la fede che insomma in qualche modo attraversa anche il racconto dello specchio di Luca, me lo sono dato, che poi ciascuno di noi ha una strada disegnata, insomma, doveva succedere. Ne parliamo però dopo le indicazioni sul traffico nel frattempo. E torniamo in studio e torniamo a parlare ovviamente con Luca Pancalli. Giacomo Crosa e Luca Pancalli hanno scritto Lo specchio di Luca, un romanzo, parliamo della vita di Luca Pancalli, che abbiamo al telefono, e la domanda regge, è proprio spontanea, no? Di solito in queste segnalazioni dei libri, no, si arriva direttamente al dunque dopo un bel po'. Noi andiamo direttamente a chiedere a Luca Pancalli perché secondo lei bisogna leggere questo libro. Due o tre cose particolari proprio, forse due bastano. Ma allora, premesso che io sono del parere che quando uno scrive un libro, era una cosa che avevo in mente da fare dai primi anni dopo l'incidente, più volte ho provato a cominciare, poi è stato un po' galeotto l'incontro con Giacomo, dove si è creata un'empatia particolare, però io ho sempre pensato che uno lo scrive prima di tutto per se stesso. Dice però perché leggerlo? Ma perché forse attraverso, con molta umiltà, con grandissima modestia e altrettanto pudore, attraverso ciò che è raccontato, e prevalentemente le pagine più dure, quelle nelle quali un ragazzino di 17 anni si trova ad affrontare nei primi anni veramente la gara più grande della propria vita, si ha la capacità di dare un senso alla vita e soprattutto a quelle piccole cose che dobbiamo, di cui dobbiamo esserne privati per renderci conto quanto sono importanti. Ecco, un viaggio nella perdita di tante cose, ma anche nella conquista di tante altre che mai avrei immaginato poter vivere. Sì, certo, c'è stato anche un riscatto, perché comunque lei rimane, è diventato anche il presidente del Comitato Paralimpico, no? Italiano, quindi in qualche modo c'è anche stato una reazione a tutto quello che poi è capitato, a tutto quello che è successo, no? In qualche modo c'è anche questa reazione esce fuori dal libro. Sì, beh, là emerge anche un po', come dire, lo spirito agonale che dentro di me è un po' formativo e formato più dallo sport che praticavo e che amavo particolarmente un po', e che ho continuato a praticare poi come atleta paralimpico, un po' perché a quell'età, quando ti capitano queste cose, non hai grandi scelte: o ti chiudi in una stanza e ti piangi addosso, in qualche modo ti rimbocchi le maniche e tenti di vivere comunque la vita che vale la pena vissuta, perché comunque è un regalo troppo grande da non vivere, per cui io mi sono rimboccato le maniche. Non appartengo a una famiglia, come dire, danarosa, non ho genitori potenti o noti, sono nato in un quartiere popolare di Roma, mi sono rimboccato le maniche e ho tentato di continuare a vivere facendo quelle cose che amavo prima, quindi praticare dello sport. Beh, l'ha praticato a livelli molto alti, visto le medaglie d'oro poi che ha vinto, no? Sì, diciamo che mi sono ripreso sempre un sogno. Io sognavo a 17 anni, da giovane pentatleta, di salire su un podio olimpico, sognavo di partecipare a un'Olimpiade, che è un po' il sogno che accomuna tutti coloro che fanno dello sport a livello agonistico. Su quel podio poi ci sono salito diverse volte, non era in una competizione olimpica ma bensì paralimpica, ma la soddisfazione è stata la stessa, per cui in qualche modo me lo sono ripreso. No, voglio dire, l'emozione di un'Olimpiade è tale, no, che tra l'altro penso che sia indimenticabile, voglio dire, da questo punto di vista. Sì, anche perché ricordiamo, tanto per dare qualche numero magari a chi la conosce, sì, più... dillo bene però, perché con quella voce non sei credibile, più come dirigente che come atleta, che lei ha vinto 8 ori, 6 argenti e un bronzo ai giochi paralimpici, quindi un atleta di alto livello. In quattro edizioni, dal 1984 fino al 96. Ecco, sempre sui giochi paralimpici, che cosa ha rappresentato il fatto che a un certo punto i giochi paralimpici siano stati abbinati ai giochi olimpici? Perché ad esempio nell'84 sono stati fatti a New York e non erano abbinati ai giochi olimpici. Per tutti noi all'epoca era un atleta, questo abbinamento è partito da Seul nell'88 per volere di Samaranch, allora presidente del CIO, ha rappresentato la realizzazione di un sogno, cioè il fatto comunque di sentirsi non più figli di un dio minore in un ghetto, ma vivere comunque in una dimensione che potesse essere quella olimpica, sia pur 2 settimane dopo la chiusura dei giochi olimpici. Però abbiamo vissuto e si continuano a vivere negli stessi impianti, con lo stesso comitato organizzatore, per cui ha rappresentato la realizzazione di un sogno, ma anche il tracciare una strada che poi abbiamo visto di recente con Londra 2012, veramente ha acceso i riflettori su un mondo al quale si sono appassionati e del quale si sono innamorate tante persone, tanta gente comune che mai avrebbe immaginato di poter poter apprezzare il gesto atletico di un atleta paralimpico senza nulla vedere di diverso rispetto a quello di un atleta olimpico, anzi innamorandosene per quell'aspetto, come dire, normale, che paradossalmente proviene dal mondo paralimpico in contrasto a un mondo olimpico che oggi è un po' soggetto più a interessi economici, grandi sponsor, manager, che no all'aspetto più umano dello sport. Ecco, mondo olimpico, per quanto riguarda il mondo olimpico italiano, sono giorni importanti. A breve ci sarà l'elezione del presidente del CONI, ci sono due candidati, tre candidati, Pagnozzi, presidente Malagò, il presidente della Federazione Cricket. Si dice che lei dovrebbe essere il segretario generale del CONI. Ma allora, si dice, io sostengo uno di questi tre candidati, che è Raffaele Pagnozzi, che è l'attuale segretario generale del CONI, La mia storia inizia 8 anni fa come vicepresidente del CONI, perché ero stato chiamato a svolgere questo ruolo all'epoca eletto da Gianni Petrucci, quindi in 8 anni ho avuto modo di conoscere Pagnozzi, e con Pagnozzi c'è questa ipotesi di percorso per la quale, nell'ipotesi in cui lui dovesse riuscire a diventare presidente del CONI, io dovrei assumere questo incarico. E vi devo dire che anche da questo punto di vista il fatto che una persona, un dirigente sportivo in carrozzina, possa diventare a tutto tondo, al di là di quello che oggi ha fatto nel mondo del calcio e in altri ruoli cui sono stato chiamato, che sono stato chiamato a svolgere, a tutto tondo, e non si debba necessariamente occupare del mondo, diciamo, della disabilità, del mondo paralimpico, insomma, è anche questa, credo, una conquista culturale. Senta, presidente Pancani, ma lei da grande vuol fare presidente del CONI? Da grande, sì, ma dai. Adesso si vedrà, adesso mi spero di poter fare il segretario generale. Sì, però queste sono cose che si dice, va bene così, ok, adesso sì, poi dopo però no, non andrebbe male, no? Cioè, a Roma sa come si dice, beato chi c'ha un occhio. Vabbè, insomma, però insomma, noi la ringraziamo intanto per la sua disponibilità e ricordiamo ovviamente il libro è Lo specchio di Luca, grazie Luca Pancalli, e a risentirci, a presto. Grazie. Grazie mille. Bene, diciamo, no? C'era appunto interessante questo aspetto qua, anche perché diciamo costa anche poco, voglio dire. Esatto, no, abbiamo detto di chiedere l'editore. L'editore, Fazzi Editore. Perché costo... poi io vado lì e dico, allora, quel numero, quel nome, mi manca le pagine. No, quante guarda, pagine? Per la allora, bellezza? Sono 300 pagine. 300 pagine. Il costo è €15. L'editore è Fazzi Editore. E quindi questo è quanto. Luca Pancalli, Giacomo Crosa, Lo specchio di Luca, romanzo. Sì, basta, dovrebbe esserci forse. Ah, scusa, siamo a Luigi da Bari. Luigi, pronto? Sì, pronto. Ciao Luigi, ciao. Cioè, chiamato per dirci delle cose bellissime, immagino. No? Dici. Tantissimo. Allora, vai, a dici. Proposito di antipatie. Dici. Allora, premetto che sono un tifoso sfegatato juventino, ma barese di nascita. Sì. E non ho mai nutrito antipatie verso la squadra del Lecce, nonostante la famosa rivalità tra baresi e leccesi. Ho iniziato anch'io, ahimè, a nutrire antipatia verso il Lecce qualche anno fa, quando sono stato a Lecce a vedere un Lecce-Juventus. Hai 12 secondi? Sì, e niente, sono stato riconosciuto perché non avevo una sciarpa giallorossa addosso, e ho rischiato seriamente di prenderla. Da quel giorno ho detto, tipo solo Juve è la squadra che gioca contro il Lecce. Ah, va bene, ecco, va bene. Ti ringraziamo intanto, ovviamente il tema era dedicato alle squadre antipatiche, questo, cari ascoltatori, è la prima puntata di Dai Vai, e non solo calcio, 800-24-0024, non dovete più farlo, non a questo punto. No, lo rifarete poi stasera alle 22. Posso farlo, poi starò qua fino alle 22. Torniamo stasera alle 22, tranquillo, no? Siamo sereni? Sì. No? Ecco. Dalle 22 alle 23, questa sera al posticipo per quanto riguarda il calcio. C'è Sampdoria-Milan, però c'è anche basket, c'è anche tanti sport, e poi parleremo ancora con Luca Cancellara, che abbiamo mandato a seguire il beach volley femminile. Ecco, ma prima o poi, non proprio tutto, tornerà prima o poi. Torna. Grazie per l'ascolto, a risentirci. Dai e vai, non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. Arieccoci di nuovo a voi in questo momento, siamo di nuovo tornati. Una buona giornata, anzi una buona serata, una buona notte, una buona trasmissione. Prova un po' a parlare. No, ma no, non parlo. Prova un po' a parlare, perché veramente oggi hai fatto veramente. Abbiamo iniziato oggi pomeriggio e la tua voce era già una roba devastante. Adesso è veramente una cosa terribile. Sì, ma anche perché ho fatto il tifo per i ragazzi che stanno difendendo lo 0-0 strenuamente a Marassi contro il Milan. 0-0 fra Sampdoria e Milan. Avete sentito anche da Dario Ricci nel giornale radio pochi istanti fa. Siamo al 16° minuto e molta più Sampdoria di Milan in questa partita. Varie occasioni per la Sampdoria, una sola sostanzialmente per il Milan. Stai facendo la radiocronaca? No, stavo così. Raccontando una partita per te stesso, tra l'altro, no, veramente è una cosa veramente vergognosa. Tra l'altro, il tuo atteggiamento nei confronti della Sampdoria. Bene, questo è Dai Vai, cari ascoltatori. 800-24-0024. Se avete qualcosa da raccontarci proprio ora, in questo momento, nel frattempo, che è successo? Dopo No. Clamoroso salvataggio di Romero sul tiro dalla destra di Bojan Krkić, veramente è stato salvato da Romero questo tiro, quindi sempre 0-0 diciassettesimo. Adesso attacca di nuovo la Sampdoria sulla sinistra con Costa. No, adesso non dire delle cose inutili. Adesso. Stai cercando di fare la radiocronaca. No, stai facendo la seconda radiocronaca. No. Cioè, già si sentono poco. Se più sono inutili, cioè capisci da poco. Sì. Attenzione, Estigarribia, tiro dal limite di Estigarribia. Allora, adesso non agitare così le acque inutilmente, cioè, perché pensa a tutti i sandoriani in Italia che si stanno agitando, no, per tutto quello che sta accadendo. Vabbè, comunque, di fatto Milan 0, no? Sampdoria 0. Ecco, però state giocando tra l'altro a Sampdoria e quindi vabbè, va bene, cioè in Coppa passiamo noi, ricordiamo che all'andata abbiamo vinto 1-0 a Milano, quindi... Sì, vogliamo parlare invece di quello che è accaduto oggi, che mi sembra la cosa più interessante per certi versi, è anche più triste per altri in questo caso. Ricordiamo che tra l'altro la Juventus ha 45 punti e resta comunque lassù, esatto, in cima, no, in questo passaggio. La Lazio è a 42 punti, mentre il Napoli rimane fisso a terzo posto a 40 punti, seguito dall'Inter a 38. La Fiorentina è a 35 e la Roma è a 32, seguita dal Milan. Attenzione, c'è il gol. No. Il Milan che poteva... Scusa, no, bisogna dire no. Che cosa ha sbagliato la Sampdoria, diciamo? Icardi ha avuto un'occasione esattamente, no, molto simile a quella che ha segnato, un po' più accentrato rispetto a quella che ha segnato con la Juve la settimana scorsa. Punta al secondo palo, il secondo palo è andato fuori, vabbè, niente, di poco, tra l'altro. Peccato. Peccato. Ma va bene, perché poi così ci qualifichiamo in Coppa, va benissimo, passiamo al turno noi. Milan, Udinese, Parma, 30 punti. Catania 29, Chievo 24, Torino 23, Atalanta 22. Bologna 21. La Sampa 20, che però qualche secondo fa ha rischiato di incrementare di 2 punti. Esatto, in questo momento la Sampa 20 punti più 1, che farebbe stasera, farebbero 21. Pescara 20 punti. Chiudono Cagliari 19, Genoa 17, Palermo 15 e Siena 11. Vabbè, Siena è già in B, dai. Come avete detto bene, però. Siena è già in B. Vabbè, dai. Allora parliamo di fantacalcio, parliamo di cose serie, perché poi dopo diventa poi problematico tutto quanto. Allora, il problema è quanti gol sono stati fatti oggi, no? Cioè, e soprattutto chi ha segnato. Vabbè, di Natale ce l'hanno tutti. Di Natale tutti quindi, su questo siamo a posto. Di Natale. Quelli poi più oculati hanno visto Lungo, hanno preso Sau, non l'hanno pagato niente perché non era titolare. Non esageriamo, cioè, adesso, Sau, 3 gol nelle ultime 4 partite. Sì, vabbè, però no. Sansone è l'unico vero grande acquisto. Sì, ma diciamolo. Non questo, quell'altro è forte. Quale? Quello del Torino, questo qua è quello scarso. Ma cosa dici? Guarda che questo qua ha fatto più gol. No, è quello scarso questo. No, questo qua è quello forte. È più forte quello del Torino. Vabbè, devo spiegarti tutto, vabbè, comunque andiamo avanti. Comunque anche io c'ho quello del Parma nel mio fantacalcio. Poi vabbè, Insigne ha segnato Pirlo, che... Girardino con una doppietta, giusto, cui... Girardino una doppietta, poi Cerci e Bianchi oggi nel Torino, diciamo rigore sbagliato da Rosina. Quindi chi ha Rosina? Vecchio cuore granata che regge di nuovo l'impatto e sbaglia il rigore del Parma, insomma. E poi fortunato. Anzi, anche no, contro? Non era contro il Parma? No, Torino contro... del Siena col Torino. Mi piace quando me lo dici così. Allora, Torino-Siena. Torino-Siena. Ragazzi, è l'ora di questa voce. No, ma che l'ora di questa voce? Mica è il lupo solitario, l'ho capito. Cioè, è l'ora di questa voce. Ah, dai, tenti di rimorchiare così brutalmente. No. Ah, ecco, allora che cosa te fai di quella voce lì a questo? Voglio dire. Poi anche chi aveva il pallavolista Floccari, devo dire, ha fatto un bel colpo in questa giornata. Sì, vabbè, soprattutto ha fatto un bel colpo perché ha toccato anche con la mano, no, Floccari. Esattamente, cioè, quindi grande polemica in tutto quanto. Un po' come se fosse stato con noi oggi pomeriggio a giocare a beach volley, perché Luca mi ha costretto a tornare. Sì, adesso non esageriamo, adesso come? Capisco che è stata una giornata campale per te, sei andato a vedere beach volley a Milano, tra l'altro, immaginate che roba. C'è un'isola felice. La notizia però di oggi è che il primo scoop di Dai Vai è che attenzione, De Silvestri traversone dalla destra, la palla attraversa tutta l'area. C'è una sola squadra in campo. Esatto. c'è una sola squadra in campo ed è la Sampdoria. Esatto. No, vorrei che all'uscita i giocatori del Milan pagassero il biglietto, perché è lezione di calcio a Marassi. Sì, certo, lezione di calcio a Marassi. Poi però il problema è che gol del esatto, Milan, basta, cioè, è finita. A un certo punto esce il Sharawi, entra Robinho, via, finito. Vabbè, e allora qui come minimo è pareggio, perché dai, chi è che segna? No, tre Sharawi nel Milan. No, Robinho, basta, ma figura. No, vabbè, amici dai, milanisti, arriva il gol di Robinho adesso. Va bene, intanto vi diciamo appunto 824 0024 su quelli che vogliono telefonare in questo momento alla trasmissione, se hanno qualcosa ovviamente da dire su questa partita, ma o anche no, tra virgolette. Ricordiamo che il tema di oggi che abbiamo lanciato è stato poi quello dedicato al già smentito da Marchisio, sì. già tutto rientrato sull'antipatia, no? Sull'antipatia calcistica, no? Che è abbastanza ridicolo definire antipatia, perché o c'è odio oppure c'è la normale indifferenza tendenzialmente, esatto, no? Cioè, voglio dire, non so, tu del Crotone cosa pensi? No, bene, molto bene, molto bene, tifo caldo, poi c'è gli paura, no, gli no, che paura, sono dei paura, tipi, no, diciamo, gli spettatori dell'ospedale, sai che a Crotone c'è l'ospedale che dà sullo stadio. Ah sì, certo, mi ricordo, perché quando è stata Crotone Juventus in che avevano... serie, scusa, in che serie, perché non ricordo bene in quella in stagione, che serie c'eravate anche voi, no? No, non c'eravamo noi, strano, di solito eravate sempre lì in Serie B voi, scusa, no. Ecco, vabbè, comunque Crotone hanno anche affittato, mi pare, no l'ha chiuso, proprio chiuso al pubblico. Ah no, allora era che l'hanno affittato dei privati, forse, che affittavano, sì, le terrazze, le terrazze, esatto. Facevano una roba tipo Siena, no? Cioè, esatto. Il palio di Siena, no. Cioè, questo Crotone Juventus, l'ospedale che dà sullo stadio, sì, era stato chiuso al chiuso. Pubblico. E i malati? No, niente, non vedevano i parenti. Non c'erano più malati. Tutti insomma. A casa. Ecco, sono cose che succedono, voglio dire, per certi versi. Intanto, come abbiamo detto, una sola squadra in campo in questo momento, e questa è la Sampdoria. La Sampdoria. Pensa a Ciro Ferrara come che è disperato. Guarda, Ciro in questo momento qua è... Mamma mia, poveretto. Ci manca anche Maresca, diciamolo. Ci manca Maresca. Ci manca anche Maresca. Forse... Ecco, dobbiamo chiederlo oggi a Maresca. Io gli avrei fatto questo. A un certo punto, bisognava fargliela questa domanda. Tu non hai avuto il coraggio, perché sei un coniglio, voglio dire. Bisogna avere il coraggio e dirgli: Maresca, diciamolo chiaramente, non ci sei te e la Sampdoria fa delle cose spettacolari. Diciamo, il gioco è fluido. Ecco, gioco fluido e soprattutto interessante. Però ecco, noi potremmo parlare anche di altri sport, ovviamente, ma come dall'altro dice il nostro sottotitolo, non è solo calcio. Ma per esempio di beach volley volevi dire? Ancora no. Beach volley, basta, no, beach volley. Cioè, no. Mi avete obbligato a tornare, sai che ormai il mio cuore batte per la beach volley? No, non ci interessa il beach volley per il momento. Tra l'altro, chi ha vinto? Io sono andato via un poco prima perché avevo complimenti. Fame. No, avevo fame. Completezza dell'informazione. Allora, secondo me hanno vinto Valentina e Daniela. Vi ricordate le specialiste del crossover, cioè, del colpo di gnocca? Sono già tue amiche, scusa, cioè, Valentina e Daniela. Quella che fa la battuta ignorante. Cioè, no, quella era l'altra, era Alice lei. La battuta ignorante è proprio la battuta... Il colpo ignorante. Colpo ignorante. Un po' fortuito, sì. Fuori dagli schemi, quello che riuscirei a fare anch'io. Sì, certo, fortuito per forza lo potresti fare anche tu, no? In questo caso. Vabbè, sono cose che ci interessano relativamente. Sempre 0-0 fra Sampdoria e Milan, 25esimo. Tensione in studio. Siamo tutti tesi in questo momento. No. Ma che vedete? Guarda, non siamo tesi. Siamo... Non dire stupidaggini, cioè, non nessuno tesi. È teso. Cioè, adesso mi sembrava che foste tesi. Ma no, ma assolutamente. Preoccupati adesso. Devo essere sincero, il tecnico è teso, tesissimo. Vabbè. Teso il tecnico, anche Giorgio. Per comunicare tesi. Con noi, però, si può arrivare anche direttamente mandando anche gli sms al 348-238-6666, giusto? Oppure attraverso la nostra pagina Facebook, Dai e Vai - Radio 24, o l'account Twitter, chiocciola Dai e Vai _ Radio 24. Twitter, la prossima puntata. Cioè, voi siete contro il beach volley, no. E contro Twitter, cosa alla volta. No, allora, una cosa alla volta. Oggi abbiamo detto il numero di telefono. Cioè, andiamo per gradi. Adesso finalmente possiamo dire pagina di Face, Dai e Vai, Radio 24. Vabbè, Dai e Vai, poi uscirà fuori, no? Questo, sì, no? Sì. E quindi in questo caso. Esatto. Io direi che però è il momento di concentrarci su altre cose più importanti. Tipo, no? La beach volley? No. Voglio dire, c'è brum, traffico, sta uscendo intanto, diamo la notizia. Sta uscendo Estigarribia e dovrebbe entrare Soriano con la sua bella barbetta, come è pettinato bene Soriano. Beh, Soriano dentro, fuori Estigarribia. Ecco, basta così, andiamo direttamente al traffico e torniamo tra poco, appena finisce il traffico. Eccoci qua. Brum, brum, brum, brum, brum. No, non è su- successo, non è successo assolutamente nulla. No, tranquilli, tranquilli, tranquilli, non è successo assolutamente nulla. E quindi in qualche modo noi potremmo andare avanti anche in questa trasmissione, anche perché seguire veramente la Sampdoria e Milan, bella partita, eh? Bellissima, simpatica, ecco. In particolare bella partita per la Sampdoria. Attenzione, però il cartellino giallo. Cartellino giallo per Niang. Ecco. Ma Niang, vabbè, ecco, una stella dipinta su. Cos'è, cioè, che ha? Ha i capelli come Balotelli, cioè con la crestina quella stretta, però sì, non bionda. Sì, sì. Sulla sinistra della testa, mamma oltre mia, a dare delle gomitate a costa clamorose. Così, tanto per provare, esatto, l'effetto che fa, mi pare. Sulla, no? sinistra della testa ci ha disegnata con i capelli una stella, cioè nel resto della testa è calvo, però c'è una stella di capelli lasciata lì. E vabbè, son cose. Senti, vogliamo parlare con persone più importanti e serie che ci dicono delle cose che almeno hanno un senso. Mi stai dicendo, di uscire? No, perché mi stai dicendo di uscire? No, puoi stare quasi in silenzio. Ah, per okay, esempio, okay, potrebbe già anche non dar fastidio più di tanto, okay, voglio dire, in questo caso qua. Tanto per darti un'idea, no? Ti leggo un'ansa, no? Un po' datata anche, sì, per certi, sì, versi, sì, ma che però è abbastanza interessante, che dà il senso di tutto ciò, e dice: servono 10 anni di residenza per ottenere la cittadinanza italiana e scatteranno solo 2 mesi dopo Londra 2012. Eh? Questo, ecco, per chi? E questo era Eusebio, no? Sì. Non il giocatore, sì, come tu puoi. Non di Francesco, no, Eusebio, no, no, di Francesco. No, no, no, no. Eusebio, aspetta che lo leggo male perché purtroppo ho sbagliato, come vi ho già detto, anche gli occhiali. Aliti, che ha dato questa dichiarazione, ha fatto questa dichiarazione, cioè lui nella sostanza è un italiano di seconda generazione. Esatto, esatto. Ecco. Ho ottenuto solo di recente la cittadinanza italiana e a causa del fatto che scattavano questi 10 anni di permanenza in Italia non ha potuto partecipare alle Olimpiadi. Il problema è che questo qua ha vinto 4-5 campionati italiani, cioè, sì, il campione italiano, certo, stiamo parlando di atletica, poi, leggera. Se, no, se tu non sai, non hai 10 anni, che cosa vuoi da me? Scusa, è colpa mia. No, tra l'altro, dire, in una disciplina di 400 ostacoli in cui ricordiamo Mori, ricordiamo grandi campioni italiani. Esatto, tutto questo non passa così come se nulla fudesse, cioè è un grosso problema, è un problema importante. Andiamo a affrontarlo questo problema, no? Perché sembra una cosa così marginale, no? Perché tutto, noi pensiamo, ah, quelli di seconda generazione, vediamo Balotelli, sì, no? Tranquillo, bello, pasciuto, che, no? Tra l'altro, anche un po' ganassa. Esatto, dire, tra l'altro, questo, ricordiamo, Balotelli ha ottenuto la cittadinanza a 18 anni, quando era in Cina, a Pechino. Esatto, esatto. No, cioè lui non era a Pechino, però, okay, durante le Olimpiadi di Pechino lui ha compiuto 18 anni e ha ottenuto la cittadinanza italiana. Esatto. Mentre invece adesso ne parliamo con Antonio Latorre, che fa parte della Commissione Tecnico-Scientifica di Preparazione Olimpica del CONI. Pronto, Antonio Latorre? Eccoci qua. Intanto benvenuto a Dai e Vai, in questo caso a Radio 24. Come va? Tutto bene? Ecco, ecco. Allora, senti, allora, vediamo di inquadrare questo problema. Intanto è un problema quello che abbiamo in qualche modo sottolineato? Sì, è un problema serio e proprio nel corso del 2012, in coincidenza con l'Olimpiade di Londra, è un problema che ha interessato anche l'attuale capo dello Stato. Quindi è un problema serio. Sì, ricordiamo che nel messaggio, diciamo, di fine anno che c'è stato al termine del 2012, appunto il presidente della Repubblica Napolitano ha ricordato questi cittadini che non hanno la nazionalità, sia quelli che vivono da molti anni in Italia che quelli che sono nati in Italia. Ecco, che cosa succede materialmente, cioè in questa fase, con questa fase di questi 10 anni per prendere la cittadinanza, che cosa accade? Io sono un atleta, vabbè, lo so che è difficile immaginarmi come atleta, però voglio dire, cioè io faccio finta di essere un atleta. Sai e che ha riso in sottofondo. L'ho sentito distintamente, questo non mi è piaciuto. Quando hai detto sono un atleta, si è sentito ridere. Professore, si comporti bene. Va bene. Allora dicevo, se uno c'ha tanta immaginazione, puoi immaginarmi come atleta, no? E io sono un atleta di belle speranze, no? In questo caso, e mi alleno in Italia, vinco anche delle gare, faccio delle cose, no? Ma poi che cosa succede? Poi succede che ad esempio a Eugenio Titi sono mancate alcune manifestazioni internazionali, quali campionati europei juniores, campionati mondiali juniores, nelle quali avrebbe potuto benissimo rappresentare l'Italia meritatamente, perché lui è divenuto cittadino italiano solo l'altro ieri, se non sbaglio ieri addirittura, quindi ben 10 anni dopo che risiedeva in Italia, nato in Italia e appunto di seconda generazione, come lui tanti altri alcune piccole cose incominciano a vedersi in occasione delle Olimpiadi di Londra. La nazionale italiana di atletica leggera aveva una percentuale relativamente alta di presenze di questi immigrati seconda generazione, ma è un problema comunque che rimane. Però ci sono paesi a livello mondiale nello sport, ad esempio ricordiamo la Germania anche nel calcio, oppure la Francia, che da molti anni hanno una politica diversa da questo punto di vista. Assolutissimamente, la Germania, voglio ricordare, se non vado errato, 7/11 della nazionale tedesca che ha disputato gli ultimi europei di calcio erano ragazzi nati in Germania ma di chiare altre provenienze nazionali. Non stiamo parlando solo di Turchia, anche di Polonia, anche di altri paesi in cui l'immigrazione verso la Germania è forte. Questo paese ha una politica intelligente di accoglienza e questo nel calcio si è evidenziato in maniera particolare, tant'è vero che nazioni come la Turchia stanno correndo ai ripari. La Turchia ha un ufficio in Germania dove, quando vede giovani calciatori di origine turca che si possono affermare che hanno un ottimo talento, gli chiede di prendere la nazionalità turca, di gareggiare per la nazionale turca, cioè, di calcio. Cercano di prevenire la fuga? Cercano di hanno capito che questo è un tema che sta non solo attraversando tutta l'Europa. La Francia è un po' diverso perché è una politica diversa già in passato. Esistono ancora alcune ex colonie, isole come Guadalupe, Martinica, che danno fior di atleti alla Francia, ma la Germania in questo senso è una nazione all'avanguardia. Ma quindi però adesso se continuasse questa storia, cioè dei 10 anni, nella sostanza potrebbe succedere che questi atleti si allenano, si alleneranno ovviamente ancora in Italia, ma poi di colpo verranno presi, possono andare da altre nazioni in questo caso. È un po', permettetemi il paragone, che è un po' forte, perché stiamo parlando di... Sì, ma tanto è tardi, non ti preoccupare. È come un po' il concetto dei cervelli in fuga. Questi ragazzi vengono formati, quindi vengono spesi soldi, competenza, esperienza, insegnamento per tutta la fase giovanile, che è la fase più delicata di formazione di un atleta, in Italia, e poi qualcun altro, qualche altra nazione, diciamo, beneficerà di questo enorme investimento, di questo enorme lavoro di formazione. È un problema giuridico o è un problema che dipende dai regolamenti federali? Cioè, ci sono è un problema giuridico, è un problema che non riguarda lo sport, ovviamente, è un problema che riguarda, diciamo, la politica a livello più grande. Lo sport forse in questo caso ha l'unico merito di segnalare queste situazioni come dei paradossi veramente assai clamorosi ed evidenti. Però perché nel calcio, ad esempio, ci sono giocatori come Thiago Motta o Camoranesi in passato che potevano giocare per la nazionale? Quello è il caso contrario, nel senso che lì si risale al discorso del avendo loro degli avi, diciamo, dei parenti, genitori, nonni che erano cittadini italiani, esistono delle possibilità di poter optare, diciamo, quasi per una doppia nazionalità. Ah, okay. Questo è un caso completamente diverso, invece, che riflette non solo l'enorme cambiamento e sarebbe proprio il caso finalmente di accorgersene, non solo ovviamente nel calcio, non solo nello sport, ma lo sport può diventare in questo caso solo magari una apripista positivo che per la soluzione di un problema enorme. Però, ecco, io adesso vedi di non tediare troppo il professore, perché è appena tornato dalla Cina. È tornato dalla Cina. Sì, cioè, nel senso che ora è in Cina, cioè che ora è a Pechino? In questo momento stavo quasi alzandomi, nel senso che sono 7 ore di differenza e quindi sette se non faccio male i calcoli, se erano le 5:30. L'ha detto con un tono che ha fatto anche un po' pesare a te, Luca. Solo a te. Cioè. No, scusa, no. Sei tu che sei un atleta, non io. No, ecco, in Cina, professore, lei è andato per che cosa? Cioè, cosa è andato a fare? Si chiama un corso accademico di formazione per la Federazione Internazionale di Atletica, diciamo. In pratica il più alto livello formativo della Federazione Internazionale di Atletica. E quindi, cioè, nel senso che si va in Cina, lei è andato in Cina e... No, perché in Cina hanno organizzato un corso selezionato, era riservato a 7 persone come aventi diritto, c'era un iraniano, un giapponese, un vietnamita, sembra una barzelletta, due, due cinesi, sì, sembra il barzelletto sudcoreano, e poi invece la federazione cinese ha deciso di investire e di affiancare a questo corso accademico un corso per giovani allenatori selezionati in tutte le province cinesi. Quando parliamo di province parliamo di territori grandi, a volte molto più dell'Italia, che hanno partecipato a questo corso. Quindi da 7 siete passati a 7.000? Da 7 siamo passati a 7 una trentina di persone, però i numeri fanno in questo caso veramente impressionante, insomma, questo passaggio. E quindi questi erano tutti allenatori, futuri allenatori, ho capito bene? Già allenatori e futuri allenatori molto giovani, e mi ha colpito molto una cosa: la metà di questi giovani allenatori erano donne. Lo stanno investendo molto sulla presenza di donne allenatrici nello sport, che mi sembra in prospettiva un'apertura non da poco. Ma era limitato all'atletica leggera? Era in questo caso limitato all'atletica leggera, e si teneva alla Beijing Sport University, che è la loro, tra virgolette, massima istituzione di formazione dello sportivo. Io ero già stato là nel 2007, e a proposito di numeri ho visto una università che è passata da 5.000 nell'arco di 5 anni e pochi mesi a 10.000 studenti. Professor Latorre, ha visto anche lo stadio di Pechino? Sì, qua all'epoca l'avevo già visto nel 2008. No, certo, però adesso come sta? No, adesso l'ho visto solo da fuori, insomma, sembra un pochino una cattedrale nel deserto, per usare un termine a noi consueto. Non viene molto utilizzato, quindi. Non viene molto utilizzato, non son più, diciamo, non ho capito più se questo progetto di farne un enorme centro commerciale è valido ancora o meno. Credo di no, perché penso che in qualche misura vorranno difendere, tra virgolette, uno stadio bellissimo per le altre cose. Stiamo parlando del Bird's Nest, lo stadio Nido d'Uccello, lo stadio olimpico. Esatto. Ecco, che è stato progettato da un architetto svizzero. Ah, davvero? Sì. Esatto. Me l'ero perso. E questa, vedi, lo sapevo, per questo che l'ho detto. No, dai, adesso ho fatto l'architetto svizzero. Dai, scusa. Esatto. Ebbene sì, l'architetto svizzero. Noi ringraziamo ovviamente il professor Latorre. Prossimamente, sicuramente andremo a disturbarlo, anche magari in orari più decenti, e magari non all'alba, perché si in questo momento si sta alzando. Esatto. Voglio dire, si riposi. In questo caso, buona colazione. Grazie. Grazie. A presto. Un cappuccino senza schiuma adesso, professore. Sai che a proposito del doppio nazionalità, no? la cittadinanza italiana, ho scoperto questa cosa: se tu sei un parente anche alla lontana, un nipote di un nipote di un nipote di un nipote di un nipote di uno che ha fatto, che ha partecipato alla spedizione dei 1000, hai la cittadinanza italiana. Ma giuro, ma sì. Ma però tac, subito, te la danno proprio automaticamente. Come fai di causa? Come fai a dimostrarlo? In che senso? Certo, non è che i 1000 sono anonimi, sanno, E si hai un drappo rosso, ragazzi, adesso non è che bisogna sempre fare battute, cioè è una cosa seria questa cosa qui. Vabbè, dai, vabbè. Andiamo con in pubblicità, va, che così vediamo che cosa si può fare dopo. Va. Calcio criminale. Aggressivo. Cioè, dopo lo stacchetto capisci, va giù leggero. No, calcio criminale. Non mi sto riferendo ovviamente alle cose che sono accadute, quelle spicciole che sono accadute oggi. No? Cioè, stai parlando del bar di Parma? Sì. Se ci fosse il barista di Parma all'ascolto, 800-24-0024 ci chiami. Ci racconti bene che cos'è che non è andato bene l'aperitivo che ha offerto. Esatto. Insomma, c'è stato un assalto ai tifosi. Secondo me mancavano le olive. C'è stato un assalto di tifosi juventini. 70 tifosi juventini hanno deciso di quel bar lì non ci piace. Esatto. Cioè, non saperne leggere né scrivere, ripuliamolo. Spritz fa veramente schifo. No, non gli piaceva l'arredamento. Brutto atteggiamento da parte dei tifosi juventini, no? E lo dico proprio in quanto tifoso juventino, di fronte a quello che è accaduto oggi pomeriggio. Prima e dopo incidenti, quindi non bello. Però il bar prima. Il bar prima, perché è lì che è dato proprio il fastidio, proprio esatto, devastato. E poi ha detto: vabbè, vediamo, c'è ancora delle pizzette. Non abbiamo finito le pizzette. No, è finito il bar proprio. Finito il bar, insomma, sono cose abbastanza. Però diciamo, calcio criminale è il libro che vorremmo in qualche modo sottolineare, ma vorremmo anche sottolineare che manca poco, esattamente un minuto e mezzo. Più tutto il recupero.

E devo dire che dopo che ho fatto il libro, ecco, quando vedo certi risultati anche con tanti gol e così via, o certe partite particolari, non lo guardo più come una volta, e mi viene sempre naturalmente da andare a vedere anche i calendari dei campionati, perché oggettivamente, ecco, se vorrei dire anche questo, il mondo del calcio scommesse è forte perché c'è gente che sa fare il suo mestiere lì, e quindi sa benissimo classifiche dei calciatori e robe varie, e sa anche dove ci sono uomini in campo o a bordo campo in tribuna su cui poter contare per poi mettere in atto dei progetti leggi. Cioè c'è gente che mastica, insomma, in quell'ambiente, mastica di calcio, insomma. Come no, non solo, anche di finanza, certo, di tecnologia, sono multidisciplinari, questa è la loro forza. Senti, mi ha turbato questo controllo delle scuole calcio e dei vivai delle squadre. Sì. Qual è lo scandalo che c'è lì? Che la scuola calcio innanzitutto raccoglie una domanda tremenda che viene da molte famiglie, cioè quella che si spera che il proprio bambino possa andare a giocare nella grande squadra, così economicamente la famiglia svolta e il bambino ragazzo pure. E approfittando di questo, io racconto nel libro di mafiosi che hanno portato bambini a Milano, a Parma, piuttosto che da altre parti a fare dei provini, acquistano il consenso sociale. Quindi quando per esempio è ora di votare, i mafiosi sanno benissimo chi deve essere eletto e chiedono ai familiari, dopo aver ricevuto questo piacere, di votare una certa persona. Se va male il provino, il bambino può sempre diventare un piccolo soldato di Cosa Nostra, dell''Ndrangheta, e quindi diventare un manovalanza militare all'interno delle organizzazioni mafiose. Calcio criminale, ecco. Calcio criminale, Pierpaolo Romani, lo ringraziamo ovviamente per la sua disponibilità a presentare, anche dirci due o tre cose per intristirci nella serata. Adesso è calata la depressione, voglio dire, non so se commenterò Sampdoria Milan, anzi potrebbe essere una motivazione non commentarla. Ringraziamo, a presto, buonanotte. Arrivederci a presto. Bene, grazie mille. Le case editrice Rubettino costa 12 euro. Questo è il libro Calcio Criminale di Pierpaolo Romani. Scusa se disturbo, c'è il traffico. No, davvero. Brum, brum, brum, brum, brum, brum. Guarda, volevo darti questa notizia, insomma, cioè devi farti una ragione. No, ve lo dico, guarda. No, devi assolutamente farti una ragione. No, guarda, non ci sto. Non so bene chi è, perché non si capisce bene il nome, però dice: raga, dovete farvi una ragione, è una trasmissione di merda. No. Ha scritto proprio merda? Eh sì, adesso cosa faccio? Libero interpretazione. No, cioè, magari ha scritto qualcosa di peggio. Noi mettiamo sotto un mi piace. Hai visto che sì. Arrossito. No, perché non l'ha messo su Face, SMS, cioè quelli proprio. Siccome abbiamo detto, oggi abbiamo dato il numero di telefono, stasera diamo gli SMS, diamo anche la pagina Face, ricordiamo che c'è la pagina Face su quale potete scrivere, anche un dibattito su quello che è appena stato detto, dai e vai, non è solo calcio, no, e quindi... Ma soprattutto con la neve anche sci, ecco, abbiamo sentito nel metro che c'è un po'. Sì, vabbè. Cos'è lo sci? Allora, il beach volley, la sabbia portoghese non vi piace, lo sci non vi piace. Sabbia portoghese. Nel weekend due importanti risultati da parte della squadra italiana maschile e femminile di sci. Questo pomeriggio, nel primo pomeriggio, non segue più nessuno. Però ad andare ad Adelboden, sul muro finale in Svizzera, ci sono 60.000 persone. Muratori che costruiscono il muro. Sì, esatto. E poi lo coprono di neve. No, la cosa che ci interessa, quanti di quei 60.000 stanno ascoltando Radio 24? Pochi, no? Bah. Anche se fosse dov'è un... quel posto lì? Cioè? Adelboden, che è dove? Una chicca della Svizzera, delle montagne. Svizzera, capito? Quindi c'è cioè, vabbè, sì, ma Manfred Mulgaetz è arrivato terzo, ragazzi. Cosa è successo? Cioè, dietro a Hirscher e a Matt. Terzo. Se, sì. Chi? Hirscher. Ma no, chi è arrivato Manfred terzo? Mulgaetz, cioè, italiano. Mulg. Mentornato italiano De Ville, che aveva chiuso la prima manche al settimo posto, nella seconda ha inforcato proprio prima del muro. Ecco, ha inforcato, no? Guarda, mi sembra che mi hanno detto tutte le notizie possibili per quanto riguarda. E così la Merighetti invece la lasci da parte. Chi? Daniela Merighetti. Merighetti o Merighetti? Certo, la Merighetti. Merighetti. Che è arrivata seconda invece sulla pista di St. Anton in Austria, ecco. In discesa. Cioè, sì. Quindi Svizzera e Austria, insomma, sì. In questo caso. Discesa libera. Cioè, c'è, ma c'è una televisione che li guarda, cioè, che li fa vedere qui? Cioè... Beh, anche qui in Italia puoi guardare. Certo, no. Ma non lo guarda più nessuno. Non lo guarda nessuno. Cioè, da quando non c'è più Tomba, lo sci, non lo guarda nessuno. Avete altri 10 minuti per farmi piangere. Ce la farete, io ve lo dico. Vabbè, cioè, ma non è che... Non te l'ha detto nessuno. Cioè, tu continui ancora a guardare lo sci. Lo guardi solo tu lo sci. Ci lasciamo un po' perplesso. Ci lasciamo un po' perplesso, devo dire. Nel frattempo, noi abbiamo anche il tempo per poter fare finalmente anche la classifica di questa settimana. Esatto. Anzi, che praticamente è uguale a quella di prima. Aggiungiamo un punto alla Samp e un punto al Milan. Esatto. Vabbè, intanto c'è la Lazio che si è avvicinata di due punti. Rispetto a mezz'ora fa, dici? Ah no, ma quella di prima no. Pensa che uno si sintonizza. In questo momento, dai e vai, Radio 24, lo so, lo dico per voi, perché magari, non so, dite, no, che cos'è questa roba? Un po' strana. Dai e vai, Radio 24, 800 24 0024. Voi che si state spostando in giro per l'Italia in questo momento, tra l'altro nella nebbia. No, nella neve. Nella neve, sulla 1. Non c'è più neve. No, neve. Cioè, mi piacerebbe che mi chiamasse uno dalla macchina e dice sta nevicando. Sta nevicando. È Natale, arriva Babbo Natale. Ho capito, non solo calcio, però anche meteo. Anche beach volley, sci nordico, sci di fondo. Esatto, okay, esatto, esatto. Comunque la Juve, sempre prima, è inarrivabile ormai, 45 punti. Abbiamo chiuso il campionato. Cosa facciamo? Portata via. Settimana prossima torniamo? Vabbè. O diamo... Sì, certo che torniamo. Sì. Comunque Lazio ha 3 punti, il Napoli ha Napoli 40, ha 40 punti, però ne ha 2 di penalità che forse glieli tolgono. Quindi... Vabbè, sono cose candidate a ospitali anche a Parigi e ad Amsterdam, però in realtà è arrivata anche Londra. Che cosa? Le Olimpiadi per i gay. Ah, davvero? Scusa? Eh sì, anche Londra. Perché fanno le candidature anche per. Vi dico, Londra. Sì. Sì. E qui c'ha già gli impianti, doveva pure utilizzarli in qualche modo, questa roba qua. Adesso lo sento. Però c'è anche Parigi e Amsterdam. Ah, vuoi leggere la notizia? Te la faccio leggere, guarda. Che così. No, perché mi piace sentirti. È gay friendly con questa voce? Ma no, perché... Ah, ok. Ma no, assolutamente. Nel 2018 sono i giochi olimpici per i gay. Sì. E il sindaco Boris Johnson di Londra ha detto che per lui va bene, gli impianti li hanno a disposizione. Attenzione, c'è Allegri. Sentiamo Allegri. Vai. È stato abbastanza bene, ci ha creato delle difficoltà. Certo, paura. Al secondo tempo dovevamo avere delle difficoltà noi, visto che avevamo giocato 120 minuti mercoledì, invece ragazzi hanno spinto, hanno creato qualche occasione. Però paura. Abbiamo gestito bene la palla, abbiamo rischiato volta che c'è stato un disimpegno sbagliato da parte di Mexex. È normale. Terrore. Che dovevamo fare meglio forse negli ultimi 30 metri in qualche ripartenza, dove abbiamo sinceramente sbagliato un po' troppo. Però credo che innanzitutto non abbiamo preso gol. Vabbè, questa è una cosa importante, visto che fino a questo momento avevamo preso sempre gol. E poi dopo abbiamo fatto una buona partita anche come trame di gioco, come sviluppo. Mi sembrano le elezioni, c'è sempre qualcuno che vince. Ma infatti è vero, cioè, sono stati presi a pallate dall'inizio alla fine del contesto. È veramente incredibile. Abbiati migliore in campo, no? No, sicuro. Assolutamente migliore in campo. Abbiati ha fatto delle parate clamorose. Consigli a Niang a tagliare dentro, a venire dentro a questa seconda punta che era un po' troppo aperta. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è Shaarawy. Sono quelli che tirano di più, sì. Sia prima sono attaccanti, secondo verso la porta. Oggi forse sono mancati anche loro. Zapata tira meno. Ma innanzitutto oggi avevamo 4 ragazzini in campo e neanche ha fatto una buona partita, e direi che sono molto contento. Non era facile per un ragazzino così giovane. Decidi lo stesso e scelgo. Vabbè, comunque è Allegro, anche di nome direi. No, però volevo dire, non era battuta questa. Ah, scusa. Cioè, immaginati, poveretto, quante volte ha fatto questa battuta, tra l'altro. No, dico, no, sembra tutto sommato sereno. Non ha preso gol, dice. Nonostante una partita veramente. Sai perché è sereno? Invereconda, devo dire, per certi versi. Non gli ha ancora detto che il Milan è stato eliminato con la Sampdoria. Perso 1-0 all'andata, 0-0 al ritorno. Sono fuori. Ecco. Che queste partite poi magari le decidono un episodio e potevamo sfruttarne meglio, soprattutto nel secondo tempo, alcune situazioni che si erano presentate favorevoli. Dai, fagli la domanda. Potrebbe dire bocciato il tridente dei giovani? No, assolutamente. Io credo che il Milan vada visto in un'ottica diversa da quello che è sempre stato visto. È sempre così. Questi gli occhialini traditi. È sempre così. Perché Shaarawy, quando è uscito, Lui è andato, si è avvicinato, vado a vedere l'immagine, si è avvicinato a Sharawi per abbracciarlo. Sharawi guardava da un'altra parte e si è un po' divincolato. Sì, un pochettino c'era la faccia così di quelli. No, non sai cos'è? Che è un po' stato segato dal presidente, cioè Allegri. Delegittimato? C'era la domanda. Mi faccia un'altra domanda quando ha detto, ma lei allora Allegri non abbiamo incontrato, gli faccia un'altra domanda. Bruttissimo. Poi dopo è andato a recuperare qua e là, ma non è che è andato a granché. Delegittimato, vabbè, è un po' un momento un po' così. Vabbè, comunque stavi finendo la notizia, tra l'altro acceleriamo, purtroppo non riusciamo ancora a vedere nessuno della Samp. Degli Rossi, beh, dopo Allegri arriva degli Rossi, adesso faranno tutte le domande Boban e compagnia cantando. No, dicevamo che nel 2018 ci sono i giochi per i gay e fra le altre candidate oltre a Parigi e Amsterdam il sindaco Boris Johnson di Londra ha proposto anche Londra. Sì, Luca, perché insisti su questa notizia? Non lo so. Cioè, smettila di ma perché Londra si è candidata, scusa? Non lo so. Tu che sei cittadino di Londra, facciamo così, tanto la missione va avanti, poi vi parlo della candidatura dei giochi gay. Giochi gay è la sua. Adesso, vabbè. Poi andiamo avanti. Ma figurati. Ma adesso mica ci formalizziamo qua. No, però abbiamo l'occasione, problema. Abbiamo anche il tempo. Mentre intanto c'è Boban che sta cercando di dire due cose anche ad Allegri, dicendo: guarda, cioè, avete giocato veramente da cani nella sostanza, cioè in questo caso. Perché veramente lo dico per tutti i milanisti, ma senza nessuna antipatia. Non per il fatto che sei tifoso juventino. No, senza nessuna antipatia. A pallonate vi hanno preso questa sera. Cioè, veramente incredibile, no? Perché poi ho detto, ho perso però contro la Sampdoria. Pallonate dalla Sampdoria? Sì, a pallonate, beh, certo, la squadra che era lì in campo. La Sampdoria di Delio, ecco. È un'altra squadra. Scaltritti, Roberto Scaltritti è stato al mixer questa sera e oggi pomeriggio c'era Paolo Corleone. Io vorrei salutarli tutti e due. E noi salutiamo il regista della trasmissione di Dai Vai, che è Sergio Ferrentino. Ecco, vabbè. Giorgio De Luca è il nostro assistente al programma. In redazione, anche in studio qua con noi, Luca Cancellara. Ha parlato ancora una volta Luca Gattuso con quella voce, ricordatevelo, non siamo noi, non sono io che parlo con quella voce lì. Speriamo che sia l'ultima volta invece con la sua stentoria e splendida, no, brillante voce, Sergio Ferrentino. Beh, adesso non esagerare. Sentiamo. Ti manca un pochino più di malizia. Una domanda per Allegri. È quasi, dal pianto Allegri ormai, cioè, in questo caso. La cosa divertente che c'è Zorzi che sta tentando di fare anche lui delle domande, tentando di darlo su di morale, però lui ha detto ma io ho visto una squadra che bella. Non è male, insomma, quella la squadra come è andata oggi, insomma. Vabbè, grazie, a risentirci ovviamente a domenica prossima, ovviamente alle 16:30, e dopo di noi ci sarà Möbius con Federico Pedrocchi. Buon ascolto. Ah, ma torniamo anche alle 22 domenica prossima. Sì, grazie. Dai vai, non è solo calcio. Vabbè.